si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. E buonasera cari ascoltatori, buonasera da Alessio Maurizi, ma anche da Carlo Gabardini. Carlo Gabardini, buonasera a tutti. Dal sabato alla domenica mattina traslochiamo in questi giorni di feste per tenervi compagnia dalle 18 alle 20:30 nell'orario della Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, che salutiamo, che saranno moltissimo in vacanza, beati loro. Vabbè, non facciamo le vittime, no. Ma no, per siamo niente, contentissimi di essere qua, anche certo. Perché io non posso andarmene via, c'ho mia mamma, devo fare tutti i regali ancora. Sì, abbiamo ancora il file aperto dei consigli per i regali di Natale per Carlo Gabardini, esatto. Anche se la anche lista di è sera chiusa ormai. No, anche di sera. Sì, ma ormai mi sto organizzando per la lista, direi, dell'anno prossimo a questo punto, perché mia mamma la chiude intorno al 12 luglio la lista di Natale. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Questo non cambia sicuramente, aspettiamo i vostri interventi per commentare le notizie, i fatti di giornata. Sentiremo, insomma, faremo un po' una via di mezzo tra quello che si può fare il sabato e la domenica, il bello dell'attualità che cambia, cioè le nostre belle notizie, con anche un po' l'attualità, quello che sta succedendo. Oggi ha parlato Letta, ieri ha parlato Renzi, ma ha parlato anche Berlusconi, non se ne è accorto nessuno, però. Un sacco di cose serissime, io non sono più abituato a queste cose. Mi sembra di essere tornato un po' ai miei inizi qua a Radio 24, devo dire. Allora, se non sai, stai zitaci. Facciamo zitto, così. Se invece sai. No, vuol dire, i miei inizi, che tra l'altro risalgono ad agosto, non esattamente a 1000 anni fa, così. E lo ricordo che sono uno stagista, quindi sono assolutamente ignorante e impreparato. 800 24 00 24, cominciamo con i titoli di Sky TG24. Impegno sulle riforme e collaborazione con Renzi. Letta traccia la rotta del governo e rivendica la svolta generazionale. Doppio fronte per l'esecutivo. Incassata la fiducia alla Camera sul Salva Roma, addirittura d'arrivo la legge di stabilità al Senato. Continua la protesta nei CIE. Sciopero della fame a Roma. Il deputato del PD, Sciauchi, resta nel centro di Lampedusa. Da nord a sud, in tutta Italia, scosse di terremoto. La terra trema a Messina, in Lombardia e in Umbria, ma non si segnalano danni. Natale all'insegna del maltempo, con pioggia e tanta neve. Già da domani violenta perturbazione nelle regioni del nord-ovest. Putin scarcera le Pussy Riot, libera anche la leader del gruppo detenuta in Siberia, ma per la band è solo propaganda. Petkovic a un passo dall'esonero, il tecnico della Lazio firma per la Svizzera a partire dal prossimo luglio. Lotito pensa a Reia. Frozen è il re del botteghino, ma da Natale il film della Disney sarà insediato da un altro cartoon. Piovono polpette 2. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Ma come piace pensare che la visita a Lampedusa e la Terra dei Fuochi, al di là di cambiare la Bossi-Fini, e la cambieremo, sì, e glielo garantisco, serva però per dire, prima ancora di cambiare una legge, che il futuro non è quella cosa drammatica che ci hanno raccontato in questi anni. Il futuro è una cosa meravigliosa. Hai sentito, Renzi, ieri sera? Il futuro è meraviglioso. Condivido. In che senso? Che prevedete il futuro? No, come approccio, diciamo. È come dire essere gay è bellissimo, così, diciamo, per citare la mia lettera. Senti, ma perché c'è da dire una cosa, che Berlusconi, che è molto assente in questo periodo, insomma, al di là delle sue vicende giudiziarie, aveva questa grande capacità di dare ottimismo, spandere ottimismo a piene mani, e in effetti né Monti né Letta hanno questa capacità. Adesso c'è Renzi... della grandissima mestizia, tu dici. Dopo Berlusconi c'è stata della grandissima mestizia. Sicuramente sì, sì. Monti, soprattutto a confronto, è stato detto l'austerità, anche il suo modo, il suo spirito molto più... Anche Letta, che è abbastanza... Anche Letta. Renzi invece prova anche lui a giocare questa carta. E anch'io sono dell'idea che, insomma, ci voglia. Un politico deve anche... insomma, voglio dire... Speriamo che porti bene, diciamo. Però che porti bene, quantomeno. Oh, però è stato anche ironico Renzi, e poi parleremo anche di Letta, che oggi ha fatto la conferenza stampa di fine d'anno, come giustamente deve essere in un programma di informazione. Ha detto: gli italiani non è che hanno votato me, avrebbero votato anche Totò, cioè l'ultimo arrivato che dà appunto una speranza. Sentiamolo. Ma gli italiani ci hanno detto: ragazzi, ora o mai più, non è che hanno votato me. Hanno votato per questa l'ultimo, esigenza, dice, per l'ultimo che, anzi, dice, votiamo anche Renzi, Totò, prendiamo anche questo. Cioè, sono arrivati a questo punto, dice, proviamo anche questa, come quando tu c'hai la medicina che subito, dice, prima ho preso l'aspirina, poi sempre di più, dice, però antibiotico, vediamo come va a finire. Meraviglioso. No, voglio dire, cioè, questa è autoironia. ci hanno votato me, però avrebbero votato chiunque che desse questo segnale di... Vabbè, così. È un modo di mostrarsi umile, direi, anche di non prendersi tutti i meriti. Sì. Non lo so di non prendersi i meriti, però di giocare anche con l'arma dell'ironia. Sì. Però ci sono anche dei problemi sul tappeto, perché questo fine d'anno è un ingorgo di norme parlamentari. C'è la legge di stabilità, che è il voto di, che è adesso. C'è il Salva Roma, con dentro un sacco di cose, che verrà votato probabilmente la fiducia oggi, ma il 27 di dicembre, perché ci sono delle correzioni da fare. C'è il mille proroghe. E c'è il Natale poi in mezzo. Poi ovviamente. C'è anche il Natale che bisogna festeggiare. C'è un ingorgo. Allora, intanto sentiamo ancora Renzi su uno di questi nodi dell'ingorgo, che è quello delle slot. La norma sulle slot, credo che gli italiani... Un tema che c'è molto caro, giusto? Anche il sabato e la domenica. Credo che gli italiani abbiano alla fine capito di cosa si trattava. C'è però una querelle, poi sentiremo anche col Movimento 5 Stelle, su chi si accredita questo risultato di avere tolto questa porcata, che in effetti lo era. Sentiamo Renzi. La maggioranza sulle slot machine... Il PD ha fatto una battaglia assieme a 5 Stelle perché su alcune cose si può andare d'accordo. Ieri è successa una cosa invece opposta, che 5 Stelle, i parlamentari, mentre stavamo abolendo le province, stavamo abolendo le cariche elettive per le province, quelli di 5 Stelle andavano e uscivano per far mancare il numero legale agli ordini di Brunetta, giocando a nascondino o forse a un 2-3 Stelle. Se c'era il numero legale entravano, se non c'era uscivano viceversa. Allora, intanto il Movimento 5 Stelle non è d'accordo con Renzi, dice siamo stati noi a, per primi, ed hanno ragione secondo me, a dire che la norma sulle slot era una porcata, cioè i disincentivi per i comuni che stavano mettendo dei limiti alla proliferazione assurda di slot machine l'avevano tirata fuori 5 Stelle. Renzi è arrivato dopo. C'è da dire che l'intervento di Renzi probabilmente è stato determinante. Poi però c'è la questione delle province, sulle quali invece... Anche perché loro l'avevano firmato, giusto? Sì, cioè, il PD l'aveva votato, l'aveva votato. E quindi oggi Letta ha parlato di errore, lo sentiremo. È una rettifica. Però, insomma, era un errore, ma è politica, per cui è una cosa che hanno voluto e poi hanno fatto retromarcia. Probabilmente anche grazie all'intervento di Renzi. Sulle province, Movimento 5 Stelle e Grill e Forza Italia sono... contrari, perché parlano di una abolizione fuffa, tutto sommato. Sentiamo Brunetta su questo. Non si risparmia un euro, anzi forse si moltiplicano gli enti e porta le mani rosse sul territorio, nel senso che dà tutti i comuni e tutte le città metropolitane in mano al Partito Comunista, ops, al Partito Democratico. Hai sentito? Collapsus anche. Collapsus. Perché in effetti, Brunetta regala. In effetti le province metropolitane, anche questa è un'invenzione un po' italiana, che sostituiranno nelle più grosse città le province che andranno abolite. Qual è il punto di Brunetta? È che per esempio prendi Napoli, il comune è di centrosinistra, la provincia allargata è di centrodestra. Se aboliamo la provincia e facciamo un comune allargato, se lo becca il centrosinistra. Stessa cosa per altre città come Milano, per esempio. E quindi, come sempre, una simpatica politica miope e mai che guarda, diciamo, a quello che sarà più avanti. Chi sai, se ne però, frega? Oggi le province sono così, i comuni sono così, quindi cambi tutta la legge. Tu dici che Brunetta ha un orizzonte più ristretto. Tutti, non dico Brunetta nello specifico, direi tutti. La politica è anche questo. Salutiamo però invece una persona che fa politica, ma ha deciso di, non so come dire, sporcarsi le mani, di entrare in una situazione, certo nei panni facili del parlamentare, di entrare nel CIE di Lampedusa, ormai lo sanno tutti gli italiani. Khalid Ciauchi, deputato del PD, buonasera. Buonasera. Da quanto tempo dentro il CIE di Lampedusa? Io sono entrato ieri mattina alle 10. Mm-hmm. Perché? Ricordacelo. Sì, l'obiettivo era quello di verificare le condizioni dei profughi che sono qui, alla luce anche del video che tutti abbiamo visto. E una volta arrivato qui ho scoperto che c'erano ancora i superstiti di quella tragedia del 3 ottobre, per cui tutti ci eravamo scandalizzati, quindi certo, me la sono sentita di girarmi, voltarmi e tornare a casa, ma di rimanere con loro e sollevare questa questione che per me era assolutamente inaccettabile. Scusa, io ho dato del tu per una questione così generazionale, forse, perché è qualche anno meno di me e mi è venuto istintivo. Però se preferisci lei... No, non c'è problema, sono anche un vostro collega prima di essere parlamentare. Cioè? Sono giornalista. Ah, ecco, allora in virtù di questo possiamo, siccome tra colleghi si fa così... Collega di Alessio Maurizio, perché io non sono un giornalista, purtroppo, per fortuna, non lo so. Ciao Chi, adesso parliamo per bene di quello che stai vedendo lì dentro il CIE di Lampedusa e la denuncia. Oggi Letta stesso ha detto interverremo, cambieremo e vedremo. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta tra pochissimo. Adesso in diretta con Khalid Ciauchi del Partito Democratico, che si trova dentro il CIE di Lampedusa. Oggi sulla stampa c'è un ci sono diversi articoli, insomma, che parlano della situazione nei CIE italiani e, insomma, ci sono testimonianze di volontari e di esponenti della polizia che ci lavora, che dicono mai politici però facciano poco i verginelli, perché queste cose si sapevano come si vive dentro i CIE, cioè la politica ha chiuso gli occhi in questi anni. Ciao Chi. Sicuramente sì, sono d'accordo. Dal 3 ottobre però c'era stato l'impegno solenne, visto che appunto il governo attuale, il governo che mi rappresenta, insomma, a cui ho dato la fiducia, e penso, insomma, che il premier Letta sia una persona seria e molto sensibile, per cui dal 3 ottobre io, venendo qui il giorno dopo, tra l'altro insieme alla presidente Boldrini e una delegazione parlamentare, eravamo tutti convinti che poi da lì le cose sarebbero cambiate, quindi abbiamo aspettato, però purtroppo le cose non sono cambiate. E una volta tornato dopo, insomma, un paio di mesi, ho scoperto che, insomma, questo non era ancora accaduto, per cui questa mia iniziativa, che è sicuramente un'iniziativa radicale, forte, vuole proprio invitare la politica, il governo a cambiare decisamente rotta e a dare risposte concrete, immediate, non più solo promesse e parole, come purtroppo si è fatto in questi ultimi tempi. Oggi Letta ha detto rivedremo la Bossi-Fini, anche le regole dei CIE. Soddisfatto di questa qui, che però è ancora una promessa, chiaramente, per ora non può che essere questo. Però devo dire che non è una cosa non prevista, insomma, negli ultimi tempi, quindi devo dire che, insomma, va dato atto comunque al Premier di aver messo al punto dell'agenda, della priorità di questo patto di governo, il tema dell'immigrazione, della Bossi-Fini, così come, insomma, con la segreteria sicuramente di Matteo Renzi, il tema della riforma della Bossi-Fini, della cittadinanza, ritornano prioritari per questo governo e per il Partito Democratico. Questo è importante, anche se qui a Lampedusa noi ci aspettiamo una risposta immediata da parte del governo e ministro dell'interno per far liberare questo centro da 200 persone profughi che non devono stare qui e più di 96 ore, invece sono qui addirittura dal 3 ottobre scorso. Ecco, perché questa è un po' la premessa che anch'io personalmente vorrei fare agli ascoltatori che ci stanno seguendo, perché i CIE sono nati per tenere prima un tempo di un mese, poi è stato allungato a 2 mesi, adesso siamo arrivati a quanto tempo si può stare nei CIE formalmente? 18 mesi. Fino a 18 mesi, cioè in un centro come quello in cui condizioni avete visto, hanno visto tutti, fino a 18 mesi. Io devo dire la verità, sono un po' preoccupato personalmente che si possa stare in condizioni del genere per 18 mesi, cioè in una condizione di abbruttimento, e poi dopo uscire magari di lì e andarsene a giro tranquillamente dopo un periodo di tempo in quelle condizioni che può abbrutire chiunque. Cioè non è che mi fa molto piacere per la mia sicurezza di cittadino, oltre al tema poi delle condizioni di umanità che naturalmente bisogna avere. Però la domanda che tutti si fanno è: quale dovrebbe essere l'alternativa? L'alternativa intanto distingue tra due tipi di persone. Ci sono i rifugiati e i richiedenti asilo, persone che scappano dalla guerra, dalla dittatura e che l'Italia è obbligata a ospitare, l'Europa è obbligata ad ospitare. Dico Europa perché ovviamente va condiviso con tutta l'Europa questo tema, e questi noi dobbiamo accoglierli perché lo prevede la nostra Costituzione, ovviamente dopo una valutazione che va fatta rispetto ai criteri che già ci sono. Un altro punto è ovviamente chi viene qui a cercare un lavoro in modo irregolare e che ovviamente l'Italia, essendo uno Stato di diritto, non può accettare. Ci sono, insomma, e a questo punto per questi cosa bisognerebbe fare? Migliorare le modalità di espulsione, cioè di rimpatrio? Sì, va fatto una serie di accordi concreti con i paesi di partenza di questi migranti, vanno agevolati il tema dell'impatrio volontario, per esempio, perché molte di queste persone oggi dicono vogliamo tornarcene subito e basta che ci lasciate andare, e molte volte sono la burocrazia anche a rallentare il tema anche della lentezza anche molte volte dei nostri tribunali, ed è un paradosso. E quindi agevolare l'impatrio volontario e poi in ultima analisi quello di uscire da un'ipocrisia, perché sappiamo che sono tante persone che vivono illegalmente in Italia ma che già lavorano in neo, lavorano nelle case come badanti, non solo. Vabbè, quelle però sono la regolarizzazione ad personam, lì cioè, sono le cosiddette sanatorie, però no, che ci sono state negli anni, quelle sicuramente non sono mancate, cioè la possibilità di regolarizzarsi una volta che si è entrati e si è trovato un lavoro. Diciamo che in alcuni paesi europei non si ricorre alle sanatorie ma a una regolarizzazione ad personam, cioè se un cittadino italiano datore di lavoro e ammette di avere una persona che sta lavorando in nero e ovviamente paga una cauzione ma agevola la regolarizzazione della persona. Cioè tu dici una sorta di sanatoria permanente in pratica, cioè una possibilità sempre aperta per chi può dimostrare che in quel momento lì sta lavorando di passare da irregolare a regolare. Beh, diciamo dentro alcune garanzie che sono ovviamente l'impegno del datore di lavoro a garantire quelli che sono i criteri di reddito e di alloggio. Questo ovviamente non deve essere una cosa vista come diciamo una cosa semplice, ma come un atto di responsabilità con delle conseguenze, perché qualora queste condizioni non ci fossero più, allora a questo punto diventa corresponsabile anche il datore di lavoro. Queste sono alcune delle idee su cui noi stiamo ragionando, ma sono il modo migliore per superare questo tema uscendo da questa logica per cui le carceri, i CIE sono la soluzione. La soluzione sono innanzitutto favorire l'integrazione di queste persone. Ovviamente se qualcuno impedisce di identificarsi, non vuole integrarsi, a questo punto è legittimo per uno Stato sovrano prevedere l'espulsione, rispettando però sempre la dignità delle persone. Ma per quanto riguarda le espulsioni, per esempio i rimpatri, cioè si spende abbastanza, perché diciamo sempre, perché il rimpatrio volontario francamente non è una vera alternativa, cioè uno dice prego lei vada, torni nel suo paese, cioè bisogna portarceli. No, ma l'impatrio volontario significa che la persona è disponibile a tornare con una sorta di incentivo, e questi sono dei fondi oggi, dei fondi appunto europei che incentivano questa sorta di rimpatrio, perché ovviamente risparmiano molti soldi allo Stato, cioè invece di trattenere una persona 18 mesi spendendo soldi in continuazione per mantenere queste strutture, le forze dell'ordine eccetera, si agevola questo qualora ci fosse la volontà di identificarsi ovviamente. L'esempio classico è appunto quando viene ritrovata una persona senza documenti, l'alternativa appunto tra tenerli 18 mesi in un centro per poi non avere l'identificazione di questi soggetti, o quella di farsi identificare e da subito venire rimpatriati senza per loro passare 18 mesi in queste strutture inadeguate e per lo Stato di spendere comunque meno rispetto ai 18 mesi che oggi passano in questi centri. Cioè è un fatto anche di utilità per tutti, ed è una logica che in alcuni paesi funziona, che noi dobbiamo far funzionare uscendo dall'idea che bisogna punire queste persone. Sì. Sono illegalmente in Italia ma non sono dei criminali per forza, poi ovviamente chi va punito. E aggiungo io, bisogna evitare che lo diventino criminali stando per mesi e mesi all'interno di questi centri dove, ripeto, oggi le testimonianze, per esempio in questo reportage della stampa, droga, violenze, sprechi continui, questi centri sono peggio delle carceri. Questo lo dico anch'io, anche qui purtroppo insomma, molte persone rischiano di reagire anche con violenza, di incattivirsi, ecco. In questi posti complicano la vita anche agli operatori, alle forze dell'ordine che fanno veramente fatica in queste situazioni. Ma quindi adesso insomma queste promesse di Letta ci sono, la maggioranza si regge sul Partito Democratico, Nuovo Centrodestra, il partito di Alfano. Credi che col fatto che la Lega adesso, che ha preso meno voti alle ultime elezioni, è in minoranza, la Lega che sappiamo che invece ha sempre avuto delle posizioni opposte su questo fronte, cioè adesso con questo clima pensi che si possa intervenire? Beh, io penso di sì, devo dire anche che abbiamo già avuto un dialogo diretto più volte con il vice ministro Bubbico in queste ore e adesso anche in questo momento per trovare una soluzione intanto immediata alla situazione qui a Lampedusa. Tra l'altro mentre parlo qui sta diluviando e questo significa che purtroppo alcune strutture saranno allagate, e questo è il dato di fatto. e mentre le persone appunto vi dormono dentro. Questa è la condizione qui di questo centro, per cui da parte del vice ministro Bubbico e da parte del premier Enrico Letta so che c'è la disponibilità a trovare una soluzione immediata per trasferire queste persone innanzitutto in luoghi più adeguati in Sicilia, e speriamo che insomma poi insomma immediatamente a gennaio si formuli una proposta alternativa rispetto alla Bossi-Fini. Credi che quindi la sola opposizione sarà quella della Lega? Cioè la Lega era il baluardo di questo tipo di politiche più basate sulla repressione, adesso che appunto hanno preso meno voti e sono una minoranza, forse la più piccola insieme a Sella in Parlamento, questo spianerà la strada per... Penso che la Lega Nord abbia esaurito tutte le proprie cartucce in termini di ideologia e della paura e di purtroppo a volte anche incitamento all'odio e diffusione di un'idea razzista della società. E ormai gli italiani hanno capito perfettamente che anche quelle promesse di sicurezza o di prima gli italiani, questi slogan a cui ci hanno abituato, sono state promesse fasulle. Il mondo è cambiato, il Mediterraneo è molto più complesso di quello che ci vogliono dire, e quindi dovranno rassegnarsi a un'Italia che cambierà, e soprattutto cambierà grazie anche al contributo di tanti nuovi italiani, di persone che amano questo paese pur venendo da fuori, che vogliono contribuire anche in questa fase così complicata per aiutare l'Italia a crescere, come dicono i dati dell'Istat, come dice il Censis. Ma mi scusi. E come spero insomma tutti possono vedere anche nella scuola italiana oggi. Sì, però scusi, non è solo la Lega che ha questa posizione, perché anche il nuovo centrodestra, voglio dire, la legge da parte è la Bossi-Fini, giusto? Quindi non è che sia esattamente solo la Lega che abbia questo tipo di posizione, sono anche quelli che sono al governo. Ma io guardo con interesse però il cambio anche di linguaggio e di passo che sta avvenendo anche in altri settori del centrodestra. Quindi io non ho pregiudizi e valuto. No, ma neanche solo io ho pregiudizi, dico semplicemente che non è che la politica della paura è cosa che sia semplicemente la Lega. Mi sembra che ci sia. Ma la Lega è stata quella che posizioni. L'ha portata avanti per sì, però con la più Lega forza continua questo. Oggi. Il nuovo segretario, il giovane Salvini, purtroppo non cambia linea recentissimamente, anzi, sta ritornando ai vecchi slogan a cui ero abituato quando ero ragazzino alle superiori. E questo è purtroppo è un danno. Io avrei sperato in un giovane segretario leghista che magari giustamente lottasse per il Nord, per meno tasse e tutto quanto, ma che non ritornasse a questo ritornello davvero che ci riporta appunto ai primi anni 90 e a una campagna che oggi in tutta Europa spera di raccattare qualche voto facendo populismo e alimentando una guerra tra poveri. Quindi io dico, non dico a prescindere che tutti quelli che votano Lega sono come Salvini, probabilmente qualcuno ha idee anche diverse, però voglio sottolineare il fatto che nel centrodestra abbiamo anche oggi testimonianze diverse, e penso che il nuovo centrodestra anche di Alfano rispetto a questo tema abbia comunque cambiato i toni. Non sono soddisfatto, ma insomma voglio confidare che in questo governo finalmente una volta per tutte il PD possa dire la sua in un tema così delicato. Grazie, ciao, chi buona grazie. Serata. Grazie a voi. 800 24 00 24, cominciamo subito allora a sentire un po' di ascoltatori. Abbiamo Nazario che ci chiama dalla provincia di Forlì Cesena, buonasera. Ah, buonasera. Sono Nazario. Ascolti, volevo intervenire circa il caso che sta montando in rete riferito alle lobby che hanno fatto pressioni a livello della nuova legge di stabilità. In particolare mi riferivo ai 22 milioni di euro di sconto che ha ricevuto Sorgenia grazie a un emendamento del PD. Sorgenia che era anche stata condannata dal Tribunale Amministrativo Regionale a pagare tale tributo. Quindi questa è la prima cosa, e volevo capire qual era la convenienza dei cittadini italiani rispetto a questo provvedimento inserito nella legge di stabilità. Io per il momento non ho neanche capito il provvedimento, quindi... Neanche io. Nella legge di stabilità è stato infilato un emendamento che praticamente fa uno sconto a Sorgenia di 22 milioni di euro. Ok? Quindi è un provvedimento eccezionale, perché uno ha un super sconto. Guardi, però dobbiamo fare una premessa, che se uno va a guardare la legge di stabilità, ma non è una premessa per dire va bene, bisogna guardarli tutti i cavilli. Per esempio il mille proroghe. per esempio il Salva Roma, sono pieni. Sì. Oggi per esempio Rizzo, come sta facendo lei, va a puntare il dito sul Corriere su tutte quelle elargizioni, anche di cifre minori, ma che però messe tutte insieme sono, per esempio, allora la difesa del torre anticorsara di Porto Palo di Capopassero, 40.000 euro. Lo stanziamento per istituire una direzione investigativa antimafia all'aeroporto di Milano Malpensa. Magari è fondamentale. Però all'interno di provvedimenti che dovrebbero che hanno una natura di un certo tipo, poi ci si ritrova dentro di tutto. Però magari c'è la mafia di Malpensa che è cattivissima. Io non lo so, lo sapranno loro se hanno deciso che serve un dipartimento antimafia a Malpensa. Oppure prendono gli aerei per scappare, magari. Di mezzo milione, può darsi, per il comune di Pietrelcina, paese di Padre Pio. C'è di tutto. Quindi, è uno dei posti più visitati al mondo, credo, il paese di Padre Pio. Quindi avranno bisogno, no? Ti ho preso candidare come consulente del Parlamento. Non lo so. Nazario, questo non per interromperla, però per dire che ce ne sono tante. Lei ha aggiunto anche la sua, voleva dire altro? Ma volevo dire anche, in merito al discorso legato a Renzi, che è venuto molto dopo il Movimento 5 Stelle, praticamente un paio di giorni dopo che in rete si era scatenata la bagarre. Lei sta parlando adesso delle slot, della questione slot machine? Della questione slot machine, che in quel caso lì, se non fosse stata per la rete, lì non sarebbero tornati indietro perché gli italiani non l'avrebbero neanche saputo. E quindi c'è un cambio di passo adesso. Va bene, grazie. Sia il problema delle lobby che è venuto fuori, che il problema delle slot machine è venuto fuori grazie alla fine della rete. Sì, è vero, io l'ho riconosciuto, l'ho detto anch'io. È un problema di controllo grosso che si pone adesso a livello del governo. Grazie Nazario, andiamo ad Emiliano che ci chiama dalla provincia di Lucca, buonasera. Buonasera. Buonasera. Salve, io ho ascoltato un po' singhiozzo, spero di non essere fuori tema. Volevo intervenire sul discorso che ha fatto oggi Letta e anche su Renzi. Allora, per quello che riguarda quello che ha detto Renzi, a me è piaciuto molto, prima di tutto, il fatto che dica che al di là del colore politico, credo che sia importante, cioè i nostri parlamentari dovrebbero dare buon esempio e cominciare a fare qualche sacrificio in termini di riduzione. Lui ha citato gli uffici, se ho ben capito. Per esempio la riduzione degli uffici, senza questa mega uffici, senza tutto questo benessere che gira intorno a loro. La spending review, diciamo. Esatto. Che inizino almeno loro. E è piaciuto molto a me questo concetto di Renzi. Mi auguro che possa veramente aprire gli occhi a tanti e che loro comincino a fare qualcosa di concreto. Per quello che riguarda invece quello che ha detto Letta, mi meraviglio del fatto che si possa dire o si possa ancora cercare di buttare il fumo negli occhi della gente dicendo che siamo sulla strada buona per uscire dalla crisi. Io credo che la ripresa e l'uscita della crisi probabilmente è solo in casa loro, perché nella stragrande maggioranza delle famiglie mi sembra che questo non stia avvenendo, ecco, vedo ancora. Questa è un'eterna questione, grazie Emiliano, cioè se si stia uscendo dalla crisi e soprattutto se i politici debbano dare messaggi di realismo o anche ogni tanto di ottimismo. Siamo partiti scherzando su Renzi che diceva il futuro è meraviglioso. Vogliamo dedicare un pezzettino di Letta a questo ascoltatore che lo citava, ce l'aveva un pezzettino, Letta che fa autocritica. Però posso dire che è anche diverso, nel senso che dire il futuro è meraviglioso è come per dire cerchiamo di andare a prendercelo, dire sicuramente usciamo dalla crisi è più un dato di fatto, detto poi dal primo ministro uno cioè la domanda anche dell'ascoltatore era corretta, era dire legittima. Mi piacerebbe sapere secondo quali dati, perché poi si sente Confindustria che invece dà dei dati completamente opposti, dice no, come siamo in piena crisi lo saremo anche nel 2014. Sentiamo Letta, ce l'avevamo uno sull'autocritica delle slot machine, parla di errore, poi l'altro sul futuro generazione che però l'abbiamo già sentito, sentiamo. Non c'è. Penso che anche quello che è successo alla Camera in questi giorni con l'errore, come l'ho definito io, la porcata, come lei citava, l'ha definito Matteo Renzi, sicuramente necessita un cambio radicale e questo cambio radicale sarà contenuto nel piano d'azione, nelle conseguenti norme, nelle conseguenti indicazioni che dal piano d'azione deriveranno. E questo era uno, ci abbiamo anche quell'altro sulla svolta generazionale. Vai. L'Italia di un colpo. Dal 24 di aprile l'Italia di un colpo ha recuperato 30 anni nel calendario. Il 2013 è l'anno che sarà ricordato come l'anno della svolta generazionale di un paese che sempre è stato raccontato al mondo come un paese non in grado di produrre una leadership e delle leadership come capita nel resto del mondo di quarantenni. Il nostro paese quest'anno ha compiuto una svolta generazionale nel complesso, ci sono varie tappe di quest'anno che hanno portato a questa svolta generazionale, senza precedenti nella storia repubblicana italiana. Qui si parla di svolta generazionale, giustamente, però attenzione, sentite Berlusconi che invece in una telefonata, non so più a quale incontro, dove non è andato ma ha telefonato, lui fa capire, dice adesso noi ci curiamo per bene i pensionati, perché i pensionati votano e sono tanti in Italia, senti qua. Quando tu suoni per esempio a certe porte con dentro un pensionato, una pensionata, è già una gioia per loro vedere qualcuno che si occupa di loro, ed è soprattutto anche verso i pensionati che noi dobbiamo fare molte cose. Dobbiamo fare molte cose per i pensionati, ha detto Berlusconi. Allora, chi abbiamo? Sentiamo dunque Davide che ci chiama da Parma, buonasera. Buonasera. Buonasera. Prego. No, io volevo dire una cosa. Io ho capito che lei come giornalista ci odia noi che lo votiamo Lega, ma continuiamo pure, diamo libertà a tutti di entrare, non conteniamoli, tanto già lo si vede qua normalmente, no? Loro arrivano, hanno tutti i diritti di questo mondo e noi italiani non abbiamo nessun diritto. Forse a casa sua è diverso, io non so. Davide, che Davide, guardi, prima di tutto io non odio nessuno, Davide. Prima di tutto io non odio nessun elettore della Lega, figuriamoci. Ho solo chiesto a Ciauchi se secondo lui sì, le posizioni... è una persona che dovrebbe parlare, quello. Come? Una persona che non dovrebbe parlare. Non dovrebbe parlare? Non deve parlare, perché, può parlare come tutti, giustamente, allora lei come che, lei. Allora è lei che odia quelli del PD, però, cosa c'entra? Quello... Perché dice così? Purtroppo io ho avuto conseguenze, comunque fa lo stesso. Ha avuto conseguenze di cosa? No, io li conosco quelli del PD, tutti. Uno per uno. Vabbè, ci dica qualcosa, ciao che non dovrebbe parlare. Perché non dovrebbe parlare? È un parlamentare eletto, ha preso dei voti, a parte la legge elettorale, ma insomma... Ma magari lei sa delle cose che noi non sappiamo, ce le dica volentieri. No, guardi, no. Io so soltanto che io ho portato via gente politica del PD. Fanno più schifo che gli altri. Guardi, questo può darsi. Io ho semplicemente detto che alle ultime elezioni la Lega ha preso meno voti che in passato. Adesso in Parlamento è a più marginale. Meno voti del passato sono ultimi, c'è il SEL. Ma c'è il PD, area PD, sono tanti loro. Sì. Vabbè, ma non è mica una gara chi prende meno voti, non importa. Mica stiamo dicendo... Mi faccia finire il ragionamento. È che noi abbiamo preso meno voti di tutti. Sì. Ah no, di tutti no, questo è possibile. No, allora, ma c'è la Südtiroler Volkspartei che sicuramente ha preso meno voti di voi, è sicuro questo. Guardi. Io ho chiesto a Ciauchi, e lo ridico adesso, siccome la Lega in questo Parlamento è minoritaria, c'è una maggioranza che può fare leggi diverse, opposte rispetto a quello che è stato l'andamento degli ultimi anni. Domanda. E lui ha detto, secondo lui, sì, eccetera. Tant'è anche perché poi... la Lega non è al governo, nel senso che siete all'opposizione in questo momento. Ha capito, questo era il punto di vista. Davide, vabbè, lei che cosa vuole aggiungere qualcosa? Non lo so, oltre a dire che noi odiamo quelli della Lega. Mi sembra confermata la questione della Lega, glielo posso garantire. Mi sembra confermata. No, beh, comunque io posso confermare che io sono in zona farm e purtroppo stiamo bene, per fortuna. Però qua non possiamo fare niente. Che, lei sta a Gioia Tauro? Poverino, casa! Poverino, non si capisce nulla, Davide, buona serata, arrivederci, basta. Non si capiva più nulla, tra l'altro. Ma era di Gioia Tauro, però? Non ho ma capito. Non lo so. Mario, che da Roma. Lega. Mario, buonasera. Buonasera a tutti. Innanzitutto preciso che io ho iniziato ad ascoltarvi alle 18:28 e c'era un vostro ospite che parlava di incentivo per il rimpatrio volontario, se non ricordo male, e non so chi fosse sinceramente. Era il deputato del PD Ciauchi, che si trova dentro il CIE di Lampedusa, sì. Ecco appunto, difatti per forza un ben pensante di sinistra doveva essere. Allora, un'altra piccola premessa, io sono un elettore stradeluso del centrodestra e sono anni ormai che non li voto più. Comunque, premesso questo, ma come si fa a dire una cosa del genere? Ma vogliamo creare un via vai di immigrati clandestini che vengono, li incentiviamo, ritornano a casa, poi ritornano, riprendono l'incentivo? Ma questi qua sono veramente assurdi. Ma non è un'invenzione, è una questione della comunità europea che in realtà ha già stanziato dei fondi per cui chi... sceglie il rimpatrio, siccome costa di più tenerli qua in Italia, chi sceglie il rimpatrio ha un bonus di soldi per cui torna nel suo paese, questo è giusto? Ma perché non investiamo dei soldi per non farli proprio arrivare invece? Io non parlo di chi è un profugo e chi ha delle assolutamente delle motivazioni più che valide, carestia, fame e quant'altro, guerre soprattutto, proprio per rifugiati politici, ma non se ne può più di sentir parlare. Guardi, di questi barconi che arrivano. Sono d'accordo con lei sul rimpatrio volontario, tant'è vero che a Ciao che gliel'ho chiesto, lo trovo anch'io una follia, cioè non si può dire a uno vabbè vai, se sei d'accordo ad andartene vattene, cioè credo personalmente che se una persona vuole rimpatriare ce la devi portare anche forse un po' a forza, altrimenti non c'è alternativa, è evidente. E abbiamo Antonella che ci chiama da Parma ancora, già due ascoltatori da Parma stasera, buonasera. Siamo fortissimi su Parma. Antonella, buonasera. Sì. Prego. Ecco, volevo solo dire, sì, naturalmente, come tutti, situazioni, azioni estreme per naturalmente dare supporto purtroppo a extracomunitari, immigrati, nessun interesse per le piccole, medie imprese. Tutti, ma cosa c'entra? Mi scusi, ma non è questo. Abbiamo parlato di un argomento mille altre volte, parliamo delle piccole e medie imprese. Impariamo a distinguere, Antonella, scusi, perché non è così. Cioè, adesso abbiamo parlato di questo argomento, ce ne sono altre. Abbiamo parlato mille volte anche delle imprese. Cosa c'entra? Estreme. Sì. Perché un ministro si prende questo impegno così, diciamo, al di fuori del... È una cosa insolita, no? Ma quale ministro? Di cosa sta parlando? Quale ministro? Quale impegno? Non ho capito. Questo che si è rinchiuso dentro al CIE. Non è un ministro, è un parlamentare del PD che è andato lì a fare del CIE. Un parlamentare lui si è rinchiuso dentro al CIE. Sì. Qual è il parlamentare che prenderà mai un appoggio per le piccole e medie imprese? Ma ce n'è anche di parlamentari, e non lo so, organizzatevi. Guardi, Antonella, si è chiamato per dire questo, l'ha già detto, grazie. Se invece vuole aggiungere qualcos'altro, aggiunga. Vuole aggiungere? No, guarda, non aggiungo niente, va per bene, una cosa grazie. Il parlamentare che è chiuso dentro, grazie, è una cosa penosa. Grazie. Adesso ci saranno una fila di parlamentari che andranno a chiudersi dentro le piccole e medie imprese, io penso, stanotte. Mi sono chiuso in una piccola media impresa. Il voto di Antonella. Tanto si sta meglio chiusi dentro una piccola media impresa. Sicuramente è più comodo. Adesso ci trasferiamo in Liguria per una storia che è saltata fuori qualche giorno fa sui giornali. Un'indennità per i dipendenti pubblici della regione di 13 euro e spiccioli al giorno, contestata dalla Corte dei Conti però. Un'indennità per che cosa? È questo che è stato contestato. Lo chiediamo all'assessore al personale della regione Liguria, Matteo Rossi. Buonasera. Buonasera e grazie per avermi contattato. Allora, intanto lei ci conferma che la Corte dei Conti ha messo nel mirino questa indennità? No, non ve lo confermo, perché non è la Corte dei Conti che ha messo nel mirino questa indennità, che tra le altre cose... Non c'è un dossier della Corte dei Conti sulle spese pazze delle regioni? No. Diciamo che è stato un titolo di giornale fuorviante. Non c'è nessuna spesa pazza, era riportato nell'articolo di giornale che i dirigenti della regione prendevano una sorta di indennità emotiva, invece i dirigenti non percepiscono nessuna indennità, e questa invece era un'indennità prevista eventualmente nel nuovo contratto decentrato, che non è mai stata applicata e non era assolutamente un'indennità di stress come... No, allora, sono due le questioni, mi scusi assessore. Poi completo e le dico, non c'è un'indagine della Corte dei Conti, noi abbiamo avuto una visita di due ispettori del MEF a maggio-giugno, che ha fatto delle rilevanze sulla nostra politica del personale, che ha segnalato quindi come dovuto alla Corte dei Conti. Ecco, il MEF intanto è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, altrimenti la gente non capisce nulla. Quindi... Ah, okay, ha ragione Iacromen, ha perfettamente ragione, condivido. Ecco, invece la cosa interessante è questa indennità di 13 euro che voi avete pensato di riconoscere. Il virgolettato è questa: emotività individuale e impegnative relazioni interpersonali. Questo è corretto? Posso leggerla tutta, perché non è corretta se viene estrapolata da... No, però questo virgolettato bozza... è corretto intanto? No. Sì, no, è corretto. Ah. Ma è una, le spiego, una bozza di contratto decentrato, sì, che non è mai entrato in vigore, perché era una discussione che si stava facendo con in delegazione trattante tra l'amministrazione e la parte sindacale, e per prorogare il contratto decentrato scaduto, la giunta, come previsto dalla legge, ha portato una bozza. Ho capito, sarà anche una bozza, assessore, però se uno nella bozza legge un'indennità di 13 euro per l'emotività individuale di questi tempi, sa com'è, la gente si rizza nei capelli in testa. Io sinceramente mi si drizzano i capelli quando viene fatta passare un'indennità come dovuta ai dirigenti, invece questa è un'indennità per dipendenti di categoria B e C, che sono quelli che guadagnano 1.100 euro al mese, e non è un'indennità per emotività individuale e impegnative. E perché ci avete scritto quello allora? Allora, posso leggere? Sì. Attività presso la struttura detta alla gestione del personale o presso la struttura competente per i servizi di giunta, che comporti prestazioni rese con articolazioni orarie non programmabili, con scadenze settimanali o mensili, periodiche e cicliche irrinunciabili. Il che significa? Fin qua non abbiamo capito ancora nulla, vado avanti. Significa che sono una sorta di indennità di reperibilità per lavoratori che guadagnano tra le 1.100 e le 1.200 euro. Ma allora perché avete scritto emotività individuale e relazioni interpersonali? Perché riguarda anche a quei dipendenti che hanno attività di sportello e devono discutere con i cittadini sulle questioni che riguardano alcune procedure o altro. Sono dipendenti della regione che devono attuare alcune politiche di spending review, sono attività molto complesse e particolari, e sono indennità che sono previste dal contratto collettivo nazionale, che riguardano la parte di contrattazione che si fa con delegazione trattante, quindi il contratto decentrato, e quindi sono previste dal contratto collettivo nazionale. Dopo i pareri espressi dall'ARAN, che è un'agenzia che verifica le spese del personale degli enti locali, l'indennità di disagio è stata portata sotto al valore dell'indennità di rischio. Ma quindi non è per dirigenti, è per i dipendenti che prendono 1.000 euro al mese, sta dicendo? Esatto. C'è un'indennità di 4.000 euro all'anno per uno che piglia 1.000 euro? Non è un'indennità di 4.000 euro all'anno. 13 euro al giorno? Quant'è? Moltiplichi per 22, faccia come faccia poi dall'ordo al netto. 300, quindi 300 al mese 100, per 22, sono 3.600. Sono 120 euro al mese, sarebbero state mai attribuite. Come 120? Sono 13 euro al giorno, al mese non lavoreranno solo 10 giorni, saranno almeno 2,60, 300 euro al mese. Bisogna vedere se lo prendono anche tutti i giorni, tra l'altro. Tutti i giorni, certo. Per 22 giorni, appunto. Per 22, e quindi siamo a 280. Sono lordi. Le dico che in busta paga vengono 120-130 netti. Vabbè, io cosa vuole che le dica? Volevo solo capire io, non è che... Se vengono riportate notizie sbagliate... No, la notizia è che era per i dirigenti, che era per lo stress che avevano nel rapporto con i dipendenti. Invece lei sta dicendo è per i dipendenti. La notizia sbagliata, le dico. I dirigenti, come lei ben saprà, non percepiscono alcun tipo di indennità di disagio. Sì. Invece percepiscono indennità le categorie B e C, e sono oggetto di contrattazione decentrata con l'RSU e quindi in delegazione trattante, prevista dal contratto collettivo nazionale. Quindi, e questa era una bozza, era un'ipotesi che poi non è stata mai applicata. Ecco, ma io voglio capire questo adesso, dopo questa polemica che comunque è stata sollevata, dopo che il Ministero dell'Economia ha detto la sua, e io credo di aver capito c'è anche un interessamento della Corte dei Conti, che lei però smentisce, mi faccia finire la domanda, andate avanti con questa cosa o la rivedete, la cambiate? Ma noi l'avevamo già rivista, non è stata applicata, non è mai stata applicata, nessuno ha mai percepito. Era una bozza e quindi non diventerà una legge questa cosa qua, non ci sarà questo aumento. Non è che diventa una legge, sì. Insomma, una legge regionale, quello che è. No, quello che un contratto, è. Se parliamo nel merito, non diventa una legge regionale, diventa il contratto integrativo decentrato, che è soggetto alla firma dei sindacati e che è previsto dal contratto collettivo nazionale e non è una legge regionale. Vabbè, io sì. Cioè, così, funziona così, io non so che dire. Ho capito soltanto questo, che questo aumento di 13 euro non ci sarà, o non ci sarà per quel motivo, non ho capito, c'è o non c'è l'aumento? No, non ci sarà, non ci sarà l'aumento. Non ci sarà quell'aumento, perché l'ARAN, che è questa agenzia, ha detto, modificando le precedenti norme, che l'indennità di disagio, in cui diciamo che prima c'era, diciamo, era, poteva essere più alta, non può essere superiore all'indennità di rischio, quindi non può essere superiore ai 30 euro lordi al mese. Quindi tutte quelle indennità di disagio che prima erano comprese nel contratto collettivo decentrato, come l'indennità di gonfalone, come l'indennità di magazzino, come l'indennità di stamperia, non potranno più superare l'indennità di gonfalone, anche questa è notevole. D'altronde sono altre cifre. Io dico, io so cos'è il gonfalone, è un dipendente della regione Liguria che dà la disponibilità durante le festività ad andare a tenere il gonfalone per 3-4 ore sotto pioggia, vento, neve o sole, a prescindere da qualsiasi situazione atmosferica, a commemorazioni che magari più delle volte in Regione Liguria si svolgono nell'entroterra. Assessore, grazie per essere stato con noi, dobbiamo chiudere, abbiamo il giornale radio, abbiamo capito che questa cosa è rientrata, perché quando uno sente parlare di stress da ufficio e di aumento per i dipendenti per lo stress da ufficio, insomma, quantomeno un chiarimento va fatto, perché sì, cerchiamo di capire sulle cifre, infatti l'indennità è 30 al mese, questa qui. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. E ricordiamo anche che abbiamo Cristian Goldoni, Riccardo Buccero in redazione, Valeria Bernardi in regia questa sera. 800 24 00 24, staremo insieme sino al 3 gennaio in questo orario, dalle 18 alle 20.30, si può fare, che normalmente vi dà il buongiorno nel weekend, adesso diventa un po' la buonasera in questi giorni di festa. Ci ancora stiamo riabituando a questo nuovo fuso. Esatto. Ancora un saluto a Giuseppe Cruciani e a David Parenzo, che normalmente sono loro a quest'ora a tenervi compagnia, saranno in vacanza. Ma magari no, tra l'altro. Magari no. Magari stanno preparando qualcosa di incredibile. Altro. Mica si deve andare per forza in vacanza. Ascoltiamo i titoli del TG3. Letta in Italia, svolta generazionale, non possiamo fallire, legge elettorale prima delle europee, su Napolitano Grillo ha passato il segno. Doppio voto di fiducia in Parlamento sul decreto Salva Roma e sulla legge di stabilità, ma per il governo è una corsa ad ostacoli. Rimandata al 27 la cancellazione degli affitti d'oro dei palazzi della politica, se non ci sarà lo stop Lega e 5 Stelle minacciano l'ostruzionismo. Nei CIE la protesta per le disumane condizioni di vita, 4 immigrati espulsi a Ponte Galeria, altri 7 si cuciono la bocca. La fine del silenzio sui veleni della terra dei fuochi, la nostra conquista, Don Patriciello alla messa per i bimbi morti e malati di inquinamento. A più di un mese dall'alluvione in Sardegna si cerca un po' di normalità, ma si deve fare i conti anche con i fondi promessi e mai arrivati. Per effetto dell'amnistia russa tornano in libertà le due Pussy Riot. Le prime parole sono di critica a Putin e di denuncia dello stato di polizia. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Come piace pensare che la visita a Lampedusa e la Terra dei Fuochi, al di là di cambiare la Bossi Fini, e la cambieremo, la cambierete? Sì, e glielo garantisco, serva però per dire, prima ancora di cambiare una legge, che il futuro non è quella cosa drammatica che ci hanno raccontato in questi anni. Il futuro è una cosa meravigliosa. E questo era Matteo Renzi. Il futuro è una cosa meravigliosa. Il futuro è una cosa meravigliosa, insomma, abbiamo già commentato prima dicendo che da quando non c'è più Berlusconi in primissimo piano sulla scena politica, lui che era un maestro dell'ottimismo, qualcuno ha detto si sente un po' la mancanza. Stai un po' dicendo che Renzi ha preso il testimone di Berlusconi, perché no, è una posizione molto precisa, direi. Non lo so, io sto dicendo che su questa cosa qua in particolare credo che è una visione che condivido, no? Quella di spandere ottimismo. E così, insomma, Monti e Letta sono molto diversi in questo, però 800 24 00 24, gli ascoltatori già sono intervenuti dicendo sì, però anche Letta quando dice che la crisi è finita, attenzione perché la crisi non è finita, siamo ancora in mezzo. Quindi questo tema qua dell'ottimismo, sì o no, può essere una, è un argomento che ritorna, o no? Gabardini? Assolutamente sì. Va bene. Deve esserlo. Recuperiamo un po' di audio della fine settimana. Per esempio i forconi. Che fine hanno fatto i forconi? Sentiamo. Siamo persone che stamattina hanno pianto e non ci vergogniamo a dirlo. Ci ha riempito l'anima, ci ha riempito il cuore questa parola del Papa. Può darsi che siamo degli illusionisti, può darsi che siamo degli illusi, può darsi che siamo troppo ingenui. Noi vogliamo andare avanti così. Questi era Ferro all'Angelus del Papa. Illusionisti gli è scappato, ma che non voleva dire quello. Lapsus. Bello, ci siamo degli illusionisti, perché? Non si sa. Ancora, ancora la Badi. Perfino il tuo dolore. Siete tutti morti che camminano. Che non pensino quelli che hanno ancora il prato verde di cavarsela. Perché alcuni sono morti ieri. Altri sono oggi che sopravvivono a stento, ma domani toccherà anche a voi. Dici non niente, ti sembra niente il sole. Dici che torneranno i forconi oppure è già finita l'epoca delle proteste? No, beh, l'epoca delle proteste non credo che sia finita. Se poi torneranno proprio i forconi, se si chiameranno in un altro modo, questo non lo so dire. C'è anche il ministro dell'economia, Saccomanni, a Domenica In. Bello che un ministro dell'economia vada a Domenica In, che è un programma che non è per niente politico, però ogni tanto no, le fanno delle interviste di politica, e ha commentato il famoso gesto dell'ombrello di Maradona al fisco italiano. Sentiamo come? Come ministro responsabile dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, mi sono quasi sentito personalmente offeso. Poi guardi, la questione dell'evasione fiscale è molto semplice. Se tutti pagano il giusto, le tasse possono scendere. Una posizione chiara, dal ministro dell'economia, insomma, poi molto in ritardo perché il gesto dell'ombrello di, vabbè, lui di, è andato adesso Domenica In, quindi sì, vabbè, dopo due mesi, vabbè, poteva anche commentare le guerre puniche, poteva stare anche zitto, cioè, no gli hanno fatto la domanda, un enorme calciatore, ma diciamo che sulla questione tasse non si è mosso molto bene Diego Maradona. Sentiamo anche Salvini, segretario, neo segretario da poco della Lega, a proposito, perché questo decreto salva Roma in cui c'è entrato dentro di tutto e ancora non è stato votato, la fiducia sì, ma il decreto sarà votato il 27, ci sono in realtà i 600, credo, spiccioli milioni per il ripianare il debito di Roma. Sentiamo Salvini. Il governo sta regalando centinaia di milioni di euro al comune di Roma e ci siamo rotti le palle che tutti facciano sacrifici da Bolzano a Lampedusa e il comune di Roma sia sempre inondato di milioni e milioni di euro, quindi li terremo lì fino a Capodanno sia alla Camera che al Senato. Quanto il mondo sia meraviglioso. Adesso, scusa, leggo sì, un sms sì, che mi fa ridere, che di Alessandra, che dice: Renzi si riferisce al suo futuro. Questo non è male, questa non è male. Adesso invece, nello spirito di Si può fare, vi vogliamo raccontare di un personaggio, di una persona, un sindaco, che si è messo un po' di traverso. Ora, ci siamo già dimenticati dell'alluvione in Sardegna, ma anche altrove, in Toscana sono morte delle persone, ogni volta poi diciamo dei danni fatti dalla cementificazione, dalla mancata cura del territorio, dalla speculazione edilizia che incide su tutto questo. Proprio in quei giorni, in questi giorni, c'è il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, buonasera, intanto lo salutiamo. Buonasera. Che lui e la sua maggioranza in consiglio comunale hanno bocciato un progetto, il progetto di cementificazione di uno spazio, di un agrumeto, nelle vicinanze tra l'altro di un fiume, nella sua zona. Qual è il fiume? Simeto. Un progetto, sindaco, dica lei se sbaglio, se dico giustamente, che insomma voi avete giudicato come una colata inutile di cemento, dovevano costruirci un centro commerciale, tra l'altro di questi tempi quando si parla anche di dare lavoro è maggiormente difficile forse sostenere questa posizione, però noi in genere ci arriviamo dopo a dire: avete visto, hanno costruito vicino all'argine di un fiume, guardate che speculazione, guardate che cementificazione. Ecco, ogni tanto c'è qualcuno, pochissimi, che si mettono in mezzo e le prevengono le cose. Ci racconti un po' meglio, sindaco? Intanto voglio precisare che è stato quasi l'intero consiglio, quindi maggioranza e opposizione, ad opporsi a questo progetto. Solo due consiglieri del PDL hanno votato a favore. Si trattava di 64 ettari di terreno che nel 2008 con una variante diventarono da agricolo ad industriale, un progetto di localizzazione in variante si dice, per costruire un centro logistico e un centro commerciale. Noi ci siamo opposti a questa cementificazione perché nell'area di Catania, l'Interland catanese, c'è una densità di aree commerciali, di centri commerciali allucinante. E quindi fare nascere un nuovo centro commerciale non era sicuramente giusto. E tra l'altro, mi scusi, faccio un piccolo inciso, tutti noi abbiamo ben fisse in mente le immagini di capannoni vuoti, abbandonati, di aree industriali nate solo per quanto riguarda la costruzione dei capannoni, poi mai utilizzate, quindi io qualche scrupolo ogni tanto ci vuole. Passo a una sua zona industriale, anche nella zona industriale ho dei capannoni vuoti attualmente, quindi... questa valore ancora di più. Mi scusi sindaco, facciamo una cosa, proviamo a richiamarla perché lo sentiamo male, cioè la linea disturbata, c'è un fruscio fastidioso e quindi proviamo a risentirlo. Adesso magari nel frattempo facciamo un ascoltatore o no? O riepilogo io la storia, facciamo un ascoltatore, sì. Lucio da Treviso, va, facciamo così. Buonasera, Lucio. Buonasera. Buonasera. Sì. Buonasera a voi. Ma io volevo tornare sulle due parole di Letta che ho sentito prima, parlare della porcata che è stata fatta sul discorso delle slot machine e dei videogiochi. Io sono un padre di figli e dico ai miei figli sempre che devono essere responsabili delle proprie azioni. Mi permetto di dire a Letta che se... ha la buona, il buon senso di dire chi è stato a scriverlo questo decreto, a metterlo in atto, a portarlo avanti. Quello sulle slot? Quello sulle slot machine. Ma guardi, si sa chi lo ha scritto, lo ha scritto l'onorevole Federica Chiavaroli del Nuovo Centrodestra. Benissimo. Però l'ha votato un sacco di gente. Il problema forse è anche chi l'ha votato. Più tutti. Votato anche il PD. Allora, che si rendano responsabili, che si è una porcata, hanno sbagliato, che si dimettano, o che il primo ministro Letta inizi a fare chiaro di queste persone che sbagliano. Io ai miei figli insegno questo. Se vogliamo andare avanti così in Italia, continuiamo pure, ma è il momento di cambiare, anche da queste cose dobbiamo cambiare. C'è qualcuno che ha scritto una porcata e ce ne rendiamo conto, ma che rimanga a casa, che ci renda anche lo stipendio che prende. Senta, facciamo così, guardi, tra l'altro online si trovano, le persone che hanno firmato ci sono, basta andarsene a cercare. E poi credo che siano quasi cioè tutto è pubblico, certo, c'è un elenco di persone che hanno firmato questa cosa che oggi Letta ha definito un errore, ma anch'io sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore, non può essere un errore, cioè è vero che i parlamentari a volte firmano anche o comunque gli errori si pagano, distrattamente, però gli errori si pagano, un errore, hai fatto una cavolata, adesso devi trarre le conseguenze, è vero, e comunque non era un errore perché niente è un errore, cioè uno non firma un emendamento senza sapere che cos'è. Pensavano che passasse sotto silenzio, c'era la preoccupazione per le casse dello Stato, quel miliardo di euro in meno di entrate. Va bene, comunque, per dire, basta andarli a cercare, i nomi ci sono, quindi poi ognuno può trarre le conseguenze che vuole. Abbiamo recuperato il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, buonasera ancora. Buonasera, adesso la sentiamo molto meglio. Adesso molto meglio. Senta, perché voi vi siete, poi in sintesi ci spieghi bene, opposti alla creazione? Tra l'altro i comuni in genere... con gli oneri di urbanizzazione ci fanno cassa ed è uno dei motivi per cui in questi anni abbiamo riempito intere aree anche vicino a fiumi o in zone collinari di cemento inutile. Un centro commerciale poteva dare anche posti di lavoro, perché voi invece vi siete opposti tutti? Ma ci siamo opposti, ripeto, perché l'Interland catanese è pieno di centri commerciali, farne nascere un altro non penso che abbia senso. Serve solo la desertificazione commerciale dei centri urbani e mette oltretutto anche in crisi i centri commerciali esistenti, perché no? E poi ritenevamo questo progetto, a mio modo di pensare, un'esplorazione edilizia e basta più. Quindi. Ma lei si sente una specie di mosca bianca per aver fatto questa operazione, che è un po' in controtendenza, oppure io pensa che... Io penso di aver fatto l'amministratore, io insieme al Consiglio Comunale che ha votato, ripeto, è stato votato sia dalla maggioranza che dall'opposizione, solo due consiglieri si sono opposti, Ritengo che abbiamo fatto gli amministratori per come si debba fare, poi mosche bianca o nera non lo giudico io. Però è vero che in questo modo rinunciate anche a degli incassi, no? Perché... Ma guardi, rinunciamo a pochissimo, perché in realtà per gli oneri di urbanizzazione sì. non erano previsti, perché sì. trattandosi di una localizzazione invariante, le opere venivano asservite sì. solo al terreno, ai 64 ettari di terreno in questione, quindi non versavano tanto... nulla di opere di urbanizzazione al comune. Quindi in questo caso... al Limo ah. sì. Quant'era? Poteva essere? Limo calcolabile intorno a 250.000 euro. Beh, insomma. Però quanti abitanti fa il suo comune, sindaco? 26.000. Beh, un comune di 26.000, 200.000 euro non sono pochi. Sì, però io parto da una teoria che oltretutto anche all'università dicevano. Sì? Quando si crea un lavoro non è detto che se ne crea un altro, nel senso spesso se ne crea uno ma se ne distrugge un altro. Quindi... Cioè che il centro commerciale avrebbe portato via in realtà dei posti di lavoro facendo chiudere delle attività più piccole. Avrebbe fatto chiudere piccole attività commerciali a bel passo, piccole famiglie che si sostendano di questo e certo. ripeto, avrebbe messo anche in crisi i centri commerciali esistenti, voglio dire. A me interessa molto l'aspetto del riutilizzare le strutture di edilizia esistenti anche per attività commerciali e questo sì certo. andrebbe incentivato perché altrimenti continuiamo a costruire cose nuove. Prima o poi dovremmo traslocare tutti sulla Luna perché non c'è più posto. Un'ultima cosa le voglio far dire, perché è significativa di questa storia. C'era stato una, come dire, da parte della regione era stato abbassato il grado di rischio. Una declassificazione si dice. Quindi sembrava proprio la strada spianata per questa speculazione. Sì, praticamente c'è stata. Ci sono dei gradi di rischio che indicano un terreno dal sì. punto di vista idrogeologico. È stata fatta una declassificazione solo per quest'area. Per consentire proprio... Cioè, era una zona dove non si poteva costruire. Poi qualcuno in regione ha detto no, adesso si può costruire, tutto pronto per il piano e per la colata di cemento e questo sindaco e questo consiglio comunale ha detto no, perché le nostre priorità sono diverse. Poi saranno gli elettori, i cittadini che conoscono meglio questa vicenda a giudicarvi. A noi è sembrata una storia in controtendenza. Le dice non si sente una mosca bianca, però io credo ce ne fossero di più di sindaci e di consigli comunali come il suo. Forse qualche, non dico tragedia, ma forse anche sì, l'avremmo evitata. Ma la regione come l'ha presa? Non parlo con lei al telefono. Ah, non con te, con lei, ma con la regione. Va bene, questo è un altro capitolo. Vedremo più avanti. Grazie al sindaco di Bel Passo, Carlo grazie. Caputo. Buona serata. Eccoci qua, buonasera di nuovo da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. E ricordiamo anche, insomma, visto che siamo in un orario inedito, in uno spazio normalmente dove c'è la zanzara, ricordiamo anche i nostri account su Twitter, chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Il mio chiocciola Carlo Gabardini. Se volete interagire in tempo reale con noi, 800 24 00 24, invece il numero verde per intervenire in diretta, chiamate come ha fatto Antonio che ci chiama dalla provincia di Genova. Buonasera. Buonasera e grazie buonasera. dell'attenzione. Allora io scusi, io devo denunciare sì. innanzitutto la mia ignoranza, perché quando ha parlato l'assessore regionale, io sono ligure, io ho difficoltà a capire proprio il senso anche noi. Di quando parlano io, Antonio, anche noi, ma sì. non ho capito. No, senza fare facili facili umorismi, però era, non si capiva veramente, no, parlava molto in burocratese. Si stava un po' arrampicando sugli specchi, dai, diciamolo. Sì. Prego. E un'altra cosa è che ogni volta che ho avuto a che fare, magari è solo un mio caso, con regione o provincia, mal di pancia è venuto a me, quindi magari di vedere se questa indennità di stress dovesse essere data ai cittadini. Io purtroppo appartengo a una generazione che ogni giorno, quando ho cominciato a imparare a leggere, a guardare le figure, sui giornali ho trovato di abusi e di sprechi della pubblica amministrazione. Nella mia ignoranza, ripeto, sarebbe il momento in cui incominciassero a riacquistare la fiducia del cittadino e smettere di parlare di indennità, ma cominciare a pensare a come riprendere la fiducia del cittadino, prima di tutto farci capire perché esistete regione e provincia, che io ancora ho difficoltà nel capirlo, ma sempre nella mia ignoranza. E punto secondo, io ho votato i parlamentari perché stessero in Parlamento, è lì che mi aspetto, almeno mi hanno insegnato che devono partire il cambiamento di uno Stato, non attraverso atti plateali, perché e poi dopo bisogna vedere che quali cosa atti di concreto plateali? Rimane. Sì, si riferisce a Ciauchi che è dentro nel CIE. Mi riferisco a lui. Che cioè, si beh, fa certo. lì? Sì. Com'è? Perché non è in Parlamento a farmi vedere le lacrime di sudore, di sangue per cercare di cambiare la situazione di quei poveri cristi? Beh, forse perché lui in questo momento pensa che il Parlamento non lo stia facendo e ha scelto un mezzo estremo per convincere i suoi colleghi parlamentari. Sono d'accordissimo con lei che uno dice perché non lo fa dall'interno? No, dia le dimissioni. Sì. Noi l'abbiamo votato per stare in Parlamento. Ma lui non è che non è in Parlamento. Troppa media in questo programma, in questi atteggiamenti, troppa voglia di comparire. Ah beh, ci questo sono d'accordo. Mille maniere concrete, sì, di cioè fare. Lei dice semplicemente un modo per mostrarsi. Antonio, grazie. Devo dire che questo ascoltatore in effetti tocca un aspetto, cioè ogni volta che un parlamentare, tra l'altro di un partito che adesso è alla maggioranza di governo, fa una protesta, viene da pensare quello che ha detto lui, ma perché non ti applichi affinché si faccia lui, qualcosa di concreto? In teoria lui, tu dici, è un si modo è applicato quello. E poi parallelamente, visto che non trova, diciamo, risposta dai suoi colleghi parlamentari, fa un gesto eclatante, immagino, dico. Non però è che... capisci che per il singolo cittadino in effetti può essere un cortocircuito vedere il parlamentare membro del governo che protesta contro le norme. Sono d'accordo, anche perché uno dice, governo sei tu, che cosa protesti, scusami, se non le cambi tu le cose, insomma, su questo sono d'accordissimo. Poi ci sono alcuni momenti in cui serve anche quello. Stefano da Padova, buonasera. Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Desideravo dire che l'Italia è famosa nel mondo per la moda, però al proprio interno noi italiani viviamo di mode. Adesso vanno di moda i quarantenni. A chi si riferisce? Al discorso di Letta. Ah, sì. Ok. Quindi sono molto deluso perché tanta retorica su una cosa che dovrebbe riguardare tutti gli italiani. Sì. Cos'è questa storia che la classe dei quarantenni è chiamata una risposta? Cioè lei giustamente dice i trentenni e i cinquantenni. Scusi, Stefano, lei i quarantatreenni. Lei però quanti anni ha, se posso? 58. Non sarà un po' di invidia anche, dice, perché adesso ma no, te. Quindi ma noi no, è giustamente una richiesta di essere incluso. Io ho un'altra posizione, ma sì. Non significa che non abbia meno diritti o che sia meno italiano. No, vabbè, il mio è solo uno però scherzo. Non è che Letta stava parlando che i quarantenni devono avere più diritti dei cinquantottenni. Esatto. Ma non sta dicendo questo però, Letta, giusto? Dice che è il momento del salto generazionale. Sì, sta dicendo c'è un cambio nella politica, ma non è che loro avranno... Salto generazionale. Sì, ma nelle leadership dei partiti, non è che sta dicendo noi ci occuperemo solo dei quarantenni, come anche Berlusconi non è che si occupava solamente degli ottantenni. Allora, adesso. Giriamola così. Quindi... Stefano, lei preferirebbe avere un leader di 60 anni o uno di 40? No! Ma gliene frega, non se ne frega l'età, non gliene frega nulla. Che conosce le cifre vere degli esodati, dei cassintegrati, dei disoccupati. Sì. Una persona competente. Non me ne frega niente di quanti anni ha. Sì, ma siamo d'accordo tutti su questo. Mi scusi, è d'accordo con noi che c'è anche... la pelle, no, però mi scusi, è d'accordo con noi che c'è anche un tema di ricambio della classe politica. Cioè ci sono parlamentari che sono lì dall'85, dall'88. Lei vuole questo o le fa piacere che ci sia uno come Renzi che non c'è ancora mai stato in Parlamento? Questa è la domanda, il succo di tutto. Il succo di tutto si vedrà. Io non ho un'opinione precisa. Ponzio Pilato, grazie Stefano, buona serata. Igor da Cagliari. Sono in linea? Sì, prego. Ah, sì, buonasera. No, io facevo una riflessione riguardo i clandestini. È un problema che viene affrontato storicamente da sinistra, per non apparire razzisti non si fa niente. Da destra si affronta il problema da razzisti, addirittura alcuni chiamano i clandestini, gli esuli politici arrivano a chiamarli negretti, cioè una cosa incredibile. Io chiedo un po' di buonsenso, perché comunque sono persone anche che scappano dalla guerra, non vengono a prendere lavoro a nessuno, né tantomeno hanno voglia di rimanere in Italia, tutto qui. Invece vedo che forze politiche, non solo la Lega, ecco, strumentalizzano per avere due voti, e mi fa meraviglia gli italiani che vadano ancora in giro dietro certe logiche. Va bene, grazie Igor. C'è da dire che questo va un po' meno di moda adesso, cioè l'ho già detto prima, la Lega ha preso molti meno voti che in passato, alle ultime elezioni non lo so se Salvini cambierà rotta, però sicuramente quella tipo di retorica lì di propaganda politica legittima probabilmente si è un po' esaurita e quindi poi staremo a vedere invece se mi sbaglio io o se è così. Adesso salutiamo e accogliamo con piacere l'onorevole Laura Castelli, deputata del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Con la quale facciamo un po' il punto su tante cose, perché questo fine d'anno è piuttosto complicato dal punto di vista degli ingombri parlamentari. Intanto le vorrei chiedere se ci può spiegare perché, e voi siete stati i primi, secondo voi, ma è giusto, sono d'accordo, a sollevarlo, la questione dell'emendamento sulle slot machine. Perché era una porcata? Spieghiamola a quelli che ancora non l'hanno capito. Benissimo. Allora, intanto quello che è accaduto e che io vi racconto si può tranquillamente cercare online e vedrete che quello che io vi racconto non è nient'altro che la verità. No, sì, ma a noi ci piace sentirlo dalla sua voce poi viva. Siamo una radio, quindi viviamo lo dico di racconti. Perché ormai questo è diventato il paese in cui le notizie si smentiscono in continuazione, per cui mi sembra giusto dirlo a chi ci ascolta. Giusto, sì, giustissimo. Tutto quello che noi diciamo può essere trovato. La questione delle slot machine è molto semplice. Al Senato è stato presentato un emendamento da un senatore di Nuovo Centrodestra che proponeva di togliere i trasferimenti a quei comuni, a quelle regioni che prendevano dei provvedimenti per cercare di combattere il problema del gioco d'azzardo. Questo cosa significa? Significa che è chiara la volontà, una volta che tutto il Parlamento lo vota, come è successo tranne il Movimento 5 Stelle chiaramente, tutto il Senato, perdon, ha votato insieme, tranne il Movimento 5 Stelle, questo emendamento proposto. Ma che era così mi scusi, che era così specifico, cioè era esattamente togliere i trasferimenti per era coloro quello. Che bloccano. Sì, sì, no, pensavo che fosse in generale. Chiedo scusa. No, riduzione dei trasferimenti ai comuni e alle regioni che adottano politiche per cercare di contrarre il gioco d'azzardo. Per compensare le minori entrate che derivano da queste misure. Cercavo di giustificare un possibile errore, cioè che uno non aveva capito che sotto la norma ci stavano le slot machine, invece proprio nella norma era scritta la parola gioco d'azzardo, quindi diciamo che l'errore è ancora più grave. Il problema è questo, che è anche un problema nostro, nel senso quando arrivano emendamenti è scritto in legalese. Certo. Quello che deve fare un deputato è di capire, è tradurlo capire in italiano. Cosa c'è dietro. E voi siete stati i primi. Adesso noi però abbiamo denunciato in aula questa cosa il 16, era il 16 di dicembre, tutto il Senato ha votato favorevolmente, tranne il Movimento 5 Stelle, questo emendamento, quindi quell'emendamento è entrato all'interno di questo decreto enti locali, il cosiddetto salva Roma per i giornali. Quando è uscita la notizia, chiaramente noi abbiamo ricevuto il testo alla Camera e abbiamo subito emendato questa cosa. Non siamo stati chiaramente gli unici, perché nel frattempo altre forze politiche La Lega. Buttato gli occhi, sono saliti sul carro. No, perché la Lega, lo dico io, la Lega è da tempo che su questa cosa delle slot machine ha messo un po' dei paletti, lo sta facendo anche la Regione, ha votato una legge, quindi la Lega su questo credo che abbia un atteggiamento autentico e precedente a questa norma. Invece mi interessa sapere lei cosa ne pensa della posizione di Renzi, se secondo lei è autentico la convinzione di Renzi su questo tema qua, oppure se è venuta a ruota del Movimento 5 Stelle perché ha capito, ha affiutato un po' l'aria. Però ce lo dice dopo il traffico. Tra un attimo, no, non c'è il traffico, mi sono sbagliato. Normalmente a quest'ora c'è, ma non c'è più il traffico. Allora è finito Natale. Basta, se finito, non c'è il traffico, tutto. Allora lei risponde. Allora può rispondere, sì. Allora, in realtà a noi questo, cioè a me personalmente non interessa. Quello che io ho vissuto all'interno della Camera è qualcuno del PD che dice che ha ammesso che questa cosa era veramente una pazzia nell'ottica di un paese che sta cercando di controllare questa cosa, no? Questo effetto, il gioco d'azzardo, le persone che giocano, gli effetti che ne conseguono. Per cui sono stati tanti deputati che hanno presentato emendamenti di questo genere e chiaramente noi l'abbiamo denunciato per primo, ma non è una questione di paternità. Noi lo diciamo sempre: quando le cose sono intelligenti si fanno e per noi quando invece non sono furbe non si votano. E dopodiché, ma quindi mi risponda su Renzi, secondo lei non è un... Guardi, le rispondo dicendo che la prima cosa che lei disse quando Renzi venne eletto fu Renzi non è in Parlamento e quindi non può decidere come votare le leggi. Ed è un po' questo, nel senso siamo contentissimi se una parte del PD si è reso conto che questo emendamento andava tolto e non dovesse diventare norma. Dopodiché su Renzi in persona io le dico, sono capo della commissione bilancio e sinceramente sono un po' estranea da tutto quello che è la dinamica politica esterna alla Camera, perché io lavoro, cioè non ha un'idea, non ha un'idea sul fatto se Renzi sia sincero oppure se sia venuto alla vostra ruota. Su questo lei non ha un'idea, non ha un'opinione. Quello che votano i deputati all'interno della Camera e del Senato, però è vero, scusi onorevole, però adesso mi faccia puntualizzare, perché se non era per Renzi passava questa cosa qua o no? Non era per perché Renzi guida il partito di maggioranza. Questa cosa al Senato è passata ed è arrivata alla Camera questo decreto con all'interno questo provvedimento. Dopodiché alla Camera abbiamo fatto degli emendamenti, non solo noi, anche altri partiti, e siamo riusciti a levarla. Va bene, quindi però, per voi è merito vostro. D'accordo, poi questo naturalmente è giusto che lei abbia le sue opinioni. La mia era solo una domanda. Altro capitolo. Gli affitti cosiddetti d'oro delle sedi della pubblica amministrazione, questo invece è un tassello ancora aperto, perché anche qui se ci vuole riepilogare e spiegare cosa succede adesso, cioè questa norma verrà corretta entro il 27 dicembre? Guardi, la stessa domanda me la faccio anch'io, lo spero per loro, perché sennò faranno Natale con noi, faranno Capodanno con noi alla Camera. Quello che invece mi preme rispiegare a chi ci ascolta, che ha solo visto una notizia che è uscita ora in questo momento perché è diventato un bubbone, ma noi siamo mesi che lavoriamo su questa cosa. Quando è arrivato il cosiddetto provvedimento manovrina, noi abbiamo inserito all'interno di questo provvedimento un emendamento che dava la possibilità agli enti locali e anche istituzionali, come per esempio la Camera, di rescindere dai contratti, da quei contratti anche quelli che non avevano le clausole di rescissione, come è successo alla Camera, perché la Camera, quando ha deciso di affittare il palazzo, cosiddetto Palazzo Marini, fa un contratto senza clausola. Quanto di costa quell'affitto lì, lei lo sa? Guardi, mi dispiace che non sono fra caro, non mi ricordo quanto costa. Ma avevo letto una cosa tipo che c'era di 500 euro al metro quadro, può essere? Si risparmiano 92 milioni di euro in circa 5 anni. Capite, quindi, che non è poco, cavolo. Tantissimo. Perché quello che è accaduto appunto è che questo provvedimento è passato all'interno della manovrina e poi c'è stato un rimbalzo tra Camera e Senato su altri decreti che tentava di levarlo. Quindi noi, quando siamo arrivati ieri a chiudere il decreto enti locali in Salva Roma, ottenendo ancora una volta lo stralcio di una norma che era stata inserita dal Senato in un altro decreto, ci accorgiamo che invece la legge di stabilità portava ancora dentro un provvedimento che di fatto cancellava la nostra. E quindi di lì avete aperto un'altra battaglia che adesso è arrivato con una promessa, non so se del ministro Franceschini o di qualcun altro, che questa cosa sarà corretta nel decreto mille proroghe, è così? Ma questo è quello che loro hanno proposto di fare, dopodiché noi abbiamo detto riaprite la stabilità, modificate il provvedimento. Non si può più fare. Quello che io vorrei spiegare adesso a lei e agli ascoltatori è che l'ultima volta che questa cosa è stata cambiata così di nascosto, senza che nessuno se ne accorgesse, è successo perché la Ragioneria di Stato si è imposta mettendo lei di fatto un provvedimento aggiuntivo a un emendamento che era stato proposto da un altro deputato. Questo per dire cosa, scusi? Che andava oltretutto nel senso opposto. Questo perché io vorrei far capire a chi ci ascolta che, come abbiamo già detto tante volte in questi giorni, che in Parlamento non sono solo i deputati che decidono le cose, ci sono i funzionari come il lobbista che abbiamo scoperto dietro le stanze delle commissioni che telefonano e tentano di fare pressione, ci sono la Ragioneria di Stato e tanti altri. Quindi quello che noi stiamo scoprendo in realtà è che forse cioè ci sono delle lobby che poi hanno delle manine però dei singoli parlamentari che firmano e fanno gli emendamenti. Vabbè, solo che ora queste cose non sono solo più parole al vento, ma sono prove. Vabbè, voi adesso su questo state sicuramente facendo un lavoro che poi gli elettori giudicheranno favorevolmente o no. Però è indubbio che state sollevando una serie di questioni, tra cui questa che avete sollevato voi, e ve lo ha riconosciuto questa volta di nuovo Renzi, torno a questo. Avete apprezzato, ha detto le buone idee non hanno paternità a proposito di questa norma sugli affitti d'oro. Sì, certo, se anche lui ritiene, come come tanti altri gruppi politici. Ieri tutti quanti si sono espressi in Parlamento dicendo che questa è una battaglia su cui il Parlamento si era già espressa all'unanimità, volendo con forza risolvere questo nuovo problema. Quindi se anche Renzi è contento di questa scelta, non possiamo che esserne contenti anche noi. Dopodiché noi aspettiamo di vedere che cosa succederà, perché vedremo cosa succederà tra qualche giorno, dovremo vedere se è stata corretta, però certo. Credo che con tutto il clamore che c'è stato a questo punto si vada in quella direzione, staremo a vedere. Noi siamo qua tra l'altro il 27, quindi non c'è problema. Altra questione sempre che riguarda il rapporto con il nuovo segretario del PD, ha detto che vuol trattare anche con voi per quanto riguarda la legge elettorale oltre che con Forza Italia. È possibile fare questa trattativa dal vostro punto di vista? Cioè, si può andare a un tavolo con col PD? Mi permetta di dire due cose. Una, che noi di solito non trattiamo, ma quindi no. Quindi la risposta è no. Non si tratta di, non è una questione di trattare. Lui apre questo capitolo dicendo. Non so, dica lei un'altra espressione per parlare. No, ma guardi, votare insieme una legge elettorale col PD si può fare o no? Si può fare tutto quello che uno ritiene, soprattutto che il Movimento 5 Stelle riterrà giusto in base a quello che la rete del Movimento 5 Stelle vuole come legge elettorale. Però mi faccia ricordare che Renzi apre questo capitolo con un ricatto. Lui qualche settimana fa uscì fuori dicendo: io do indietro i rimborsi elettorali se il Movimento 5 Stelle mi vota la legge elettorale. Ora, io credo che questo non sia un buon modo per aprire un dialogo, come dice lui, o una trattativa, perché questo a me personalmente, a noi, ha fatto un po' strano. Vabbè, quindi un po' la mano è più un no che un sì, via, mi sembra di capire. Ma, a questo guardi, io, in questa fase, diciamo. Mi dispiace che tanti non possano vedere tutti i giorni quello che facciamo, ma veramente le cose che sono intelligenti vanno avanti e quelle che non lo sono... sì, per noi hanno un parere negativo. Quindi si lei dice a parlare finalmente e ci si confronterà. Però stante le ipotesi che ci sono sul tappeto di legge elettorale, cioè c'è da parte vostra interesse, oppure tutte le ipotesi che sono state fatte non vi interessano? Oppure allora, dovete consultare la base ancora? Cosa dovete fare? A noi nessuno è venuto a chiedere nulla sulla legge elettorale, questo ve lo devo dire. Quindi le cose che ci sono sui giornali non le vuole commentare, va bene. Però scusi, andare oltre chiedere, su questo. No, sì? Nel senso che mi sembra che la questione sia, al di là che forse il modo con cui l'ha fatto Renzi, che forse voi lo reputate da furbetto o sbagliato, la domanda è se i voti di Renzi portano a una legge elettorale, che è quella che va bene anche a voi, va bene, voterete insieme o vi rifiutate di votare perché comunque non si vota insieme al PD? No, ma guardi, questo non è mai stato il nostro ragionamento. Noi votiamo tutto quello che a noi che va bene, che fa bene al paese. L'abbiamo dimostrato. Certo. L'abbiamo dimostrato più volte. Volevamo solo risentirlo. PDL, votando col PD, votando con chiunque portasse avanti un'idea che a noi stava bene. Quindi succederà ancora, come perfetto. Succede tutti i giorni. Questo è molto rassicurante, perché uno dice va bene, se però le cose che secondo voi vanno bene ci sono, poi uno le vota. Per non fa ostruzionismo. Ottimo. Questo non è mai stato un nostro criterio, mai. Senta, un'ultima cosa riguarda le province. Sì. Il provvedimento del ministro qui, Delrio. Purtroppo c'è stata questa presa in giro collettiva, perché la maggioranza va in giro dicendo che si sono abrogate le province. In realtà si è creato, così come ha detto la Corte dei Conti, l'avevamo già detto anche noi, ma ora lo dice anche la Corte dei Conti, si è creato un doppione di alcuni enti. Quello che è successo essenzialmente, per farla molto semplice, è che le province hanno cambiato nome, sono diventate delle aree e in più si sono aggiunte le aree metropolitane, per cui ci saranno dei doppioni. Oltretutto ci sono dei problemi di democraticità, perché l'area metropolitana avrà un rappresentante unico che non sarà scelto dai cittadini. Dopodiché quello che succederà, io quindi lei mi scusi, su questo condivide la preoccupazione di Brunetta di Forza Italia, che ha detto, credo ieri o oggi, non so esattamente, che per esempio le province saranno tutte a maggioranza, lui dice comunista, ma insomma di sinistra, anche quelle dove la maggioranza è diversa tra il comune e la provincia, quindi in quelle aree metropolitane ci sarà una forzatura democratica secondo voi? È vero, questo è vero, è un dato trovabile subito su internet, che l'80% delle province sono di sinistra in questo momento, quindi fanno capo al PD, quindi forse la sua preoccupazione nasceva da questo. Mi chiedo se avrebbe pensato la stessa cosa qualora fossero state 50-50. Era quello esattamente che stavo dicendo prima. Infatti il problema reale è che non si sa che cosa accadrà a questi enti dal punto di vista proprio organizzativo, e ci sarà un momento in cui di fatto ci sarà un paciocco, quello che noi abbiamo detto fin da sempre, anche quando Brunetta era in Cos'è un paciocco? Cos'è un paciocco? Il paciocco è che non togli le province ma fai delle aree metropolitane, sì, più delle province che cambiano nome pur non essendo più province. È bellissima l'espressione paciocco, ero incuriosito visto che prima parlavamo che i politici parlano in legalese, lei giustamente invece tra dice paciocco, tra l'altro è da prima pagina, faranno il paciocco. Tra l'altro poi per chiudere e poi ci salutiamo, devo dire che le aree metropolitane che adesso sono 9, forse 10, siamo in Italia, fanno presto a diventare 11, 12, 13. Di più, sono arrivate 12 più o meno. Staremo a vedere, grazie intanto e buona serata all'onorevole Castelli, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E auguri, va, già che ci siamo, perché giustamente ci siamo, eh. Allora, facciamo qualche ascoltatore, Vittorio da Milano, poi fra poco sentiremo credo anche i titoli forse del TG1. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Buonasera. Porto indietro un attimo l'orologio della trasmissione, nel senso che faccio riferimento alla discussione che avete avuto con quell'assessore, credo, della regione Liguria. Sì, esattamente, l'assessore Rossi, di Sella. Sulla questione di un'indennità un po' astrusa. Sì. Io sono rimasto molto colpito dal fatto che si discute di un tema così importante come quello della contrattazione, in modo, devo dire, un po' superficiale per chi lavora in una radio che è la radio della prima organizzazione imprenditoriale del paese. Cioè fare confusione tra la contrattazione, una legge regionale o la legge dello Stato, non mi pare esattamente il modo migliore per discutere di un tema che comunque la sua rilevanza ce l'ha. No, lei ha ragione, ma guardi, l'assessore era lì per spiegare, per specificare, per chiarire. Io ho fatto confusione tra legge e contratto, però trattandosi di pubblica amministrazione il contratto ha anche un valore o viene emanato anche una forma diversa dai contratti privati. Però dopo che c'è un'intesa. Vabbè, ma comunque questo è un particolare. Ci sono pochi di accordi che vengono firmati in questo periodo. Sì. Credo, anzi, nessuno. Lei ne conosce 10? Non ho capito. Lei ne conosce 10 di accordi. Di cosa? Che vengono firmati accordi integrativi o accordi nazionali, sì, che vengono firmati o rinnovati. Io ne conosco veramente pochi. È un tema di una importanza estrema per milioni di lavoratori in questo paese. Vabbè, comunque abbiamo dato la parola all'assessore e ha detto quello che doveva dire. Purtroppo non è stato chiarissimo, anche secondo me. Si è un po' rifatto a un linguaggio burocratese, forse si è un po' arrampicato sugli specchi, non lo so, questa è la mia sensazione. Comunque, che dire, ci prendiamo la sua reprimenda, la piccola reprimenda, ci prepareremo di più la prossima volta. Grazie. Vuole dire qualcosa? Già sono stagista, se devo studiare anche il diritto del lavoro non ce la posso fare. Finita. Ma se uno fa il giornalista, secondo me lei ha ragionissimo, ma io non sono un giornalista. Se discute Radio 24 forse un pelino sarebbe il caso. Ha ragione, ha ragionissimo. Io purtroppo non sono un giornalista, ma lei ha ragione. Ma infatti è tutta colpa mia, perché tu non sei qua. Ma no, non è perché c'è anche sede, non è che tutte le volte ci vuole in studio un esperto di diritto del lavoro, no. Questo che dico. No, però è molto giusto che invece che si parli con cognizione di causa di questo problema, che altrimenti c'è gente che la conosce meglio di me. Dei commercialisti qua seduti che intervengono. No, anche perché poi magari telefona qualcuno e vuole parlare anche di salute, bisogna avere qua anche un medico. Abbiamo i titoli del TG1? Sì? Ce l'abbiamo? No, non ancora. Allora facciamo un altro ascoltatore. Roberto dalla provincia di Parma, buonasera. Sì, salve. Buonasera. Sono Roberto di Parma. No, volevo continuare su questo argomento, sì, visto che ne abbiamo parlato, quello dell'indennità. Sì. In realtà il tema mi ha sorpreso il fatto che venisse interpretato in un modo così deteriore, perché stiamo parlando di persone che hanno bisogno di essere diciamo incentivate anche spesso, no? A passare magari da un ufficio di back office a un ufficio di sportello, dove gli orari sono disagevoli, dove le ferie sono fatte soltanto quando diciamo si prestano a essere fatte. Quindi a me sorprende in realtà che ci si sorprenda. Negli enti pubblici bisognerebbe avere più incentivi per far sì che le persone lavorino con più lena, con più interesse. Forse però ogni tanto, mi scusi, forse ogni tanto ci vorrebbe anche qualche incentivo alla rovescia, cioè dire se non fai il tuo lavoro ti caccio fuori. È questa la mia personale opinione, ma anche voglio dire la preoccupazione forse di chi ha scritto l'articolo dei cittadini. Cioè, soprattutto non è che nessuno è contrario a nessun tipo di incentivo. È ovvio che in questo momento in cui si parla di spending review, in cui diciamo tutte le regioni non sono esattamente il fiore all'occhiello di questo paese, quindi si ha la sensazione situazione di enormi sprechi, di gente che si faccia pagare anche quando fa il regalo di nozze alla propria moglie, lo fa pagare dalla regione, è un momento in cui uno legge un'indennità per i lavoratori della regione e reagisce in questo modo. Poi non è che le indennità siano sbagliate. E non, mi scusi, non un premio per la produzione di quell'ufficio, certo, lì, ma un'indennità, sì, da stress. Per chi lavora in un ufficio pubblico, per l'amor del cielo, lo stress ci sarà sicuramente. Sì, sì, sì, no, ma non, però darei un'indennità anche a chi è in coda in un ufficio della regione, ma comunque da stress. Beh, ci sono, noi chiediamo, no, negli sportelli, il gradimento dei cittadini, dove ero responsabile il gradimento era molto, molto alto, lo potevamo dimostrare. Era quindi normale per me che queste persone che si impegnavano molto potessero avere un incentivo in più rispetto ad altri, insomma, tutto qua. Va bene, grazie. Grazie mille. Buona serata. Buonasera. Mario da Firenze, buonasera. Sì, ciao, buonasera. Buonasera. Niente, io volevo, se possibile, posare l'attenzione sull'intervento che ha fatto l'onorevole senatore Sibilia, adesso non so se l'onorevole senatore, che per caso ho guardato su YouTube, davanti al, in Parlamento l'ha fatto, davanti al ministro Letta e al suo governo. La donna mi ha fatto drizzare i peli addosso, cioè dice praticamente, gli ha detto, guardate, voi fate tutti parte della stessa fondazione, e qui ci siete voi, c'è Alfano, c'è il ministro delle infrastrutture, dice guarda caso fondazione, della scusi, fondazione è Autostrade per l'Italia, c'è il ministro dell'energia. Ma di che fondazione stiamo parlando, scusi? No, stiamo parlando di una cosa che secondo me è gravissima, sulla quale... Ma cosa? No, non lo mettiamo in dubbio, ma non abbiamo capito il nome della fondazione. Ah no, il nome della fondazione non me lo ricordo. Ah, vabbè. È un museo. L'onorevole Sibilia ha fatto il nome, basta andare su YouTube e scrivere l'onorevole Sibilia. E adesso siamo in onda. Però scusi, non Mario, è lei, scusi, se... Mario, lei chiama per intervenire su questa cosa e poi lei in prima persona non sa quello di cui sta parlando, no, non è che sia al massimo. No, so di cosa sto parlando e vorrei che le persone andassero a vedere questo intervento, perché secondo me è importante. Ma se lei ci dà le coordinate, scusi, noi andiamo a vederlo, scusi, volentieri. Mario, prima vada lei a vedere a informarsi, okay, di quello che vuole dire e poi ce lo comunici. Cioè, mi sta chiamando per dire una cosa, non mi ricordo, ma si rende conto? No, mi ricordo tutto l'intervento, l'unica cosa che non mi ricordo è il nome della fondazione, che secondo me è, va bene, è va bene. E allora ci racconti l'orrore di questo intervento? Beh, l'orrore è che fanno tutti parte di questa fondazione, sponsor della fondazione, ripeto, ad esempio, è la lobby delle slot machine. Però mi scusi, non mi sembra una quisquiglia. Che guarda caso ha avuto uno sconto di 2 miliardi di tasse, fa parte il figlio di Napolitano, guarda caso grande sponsor del governo Letta, fanno parte i ministri che guarda caso sponsor sono, ripeto, Eni, Enel, Cremonini, Nestlé e compagnia bella. Sì. Quindi il concetto è che secondo il mio punto di vista, proprio da così, sentendo questa cosa, fa parte Renzi, fra le altre cose. Queste sono parole dell'onorevole Sibilia, basta andare su YouTube a vedere. Va bene Mario, no? Grazie. La prossima volta chiamiamo l'onorevole Sibilia invece di far parlare lei. Titoli della 7. Letta mostra ottimismo nella conferenza stampa di fine anno e parla di svolta generazionale, facendo riferimento a se stesso, ad Alfano e a Renzi. Il premier dice: recuperati 30 anni, questa generazione ha una grande opportunità e non può fallire. Il segretario del PD chiede gioco di squadra, indica come priorità la legge elettorale prima del voto delle europee, le riforme istituzionali, l'abbassamento delle tasse con la spending review. E la legge di stabilità ottiene fiducia e il via libero definitivo del Senato, una manovra da quasi 15 miliardi, molto diversa dopo il suo approdo in Parlamento da quella pensata e scritta al governo. È diverso anche l'impatto delle tasse, che guardando i numeri non sono proprio diminuite, più di 8 miliardi di entrate e solo 6 di tagli. Lo hanno chiamato il decreto salva Roma perché lo scopo era quello già discutibile di evitare il crack finanziario della capitale. In realtà dentro il provvedimento c'è finito di tutto, dagli stanziamenti per i treni valdostani a quelli per il restauro di Sciacca, la tassa per visitare i vulcani, insomma cose che nulla hanno a che vedere con la capitale. E proprio sul Salva Roma e sulla vicenda degli affitti d'oro dei palazzi della politica è durissimo l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle. Vi avvisiamo, minacciano di sistemate questa indecenza o comprate cotechine e lenticchie perché vi facciamo passare il Capodanno qui dentro. Si chiude con la condanna a 10 mesi di carcere per possesso abusivo di arma da fuoco, documenti falsi, il processo a Nizza contro Bartolomeo Gagliano, il killer evaso martedì scorso durante un permesso premio. Sento delle voci, voglio solo andare a vedere mia madre, ha dichiarato l'uomo ora rinchiuso nel reparto clinico del carcere di Aix-en-Provence. Poi tornerà in Italia per scontare il fine pena. Si chiamano famiglie unipersonali, come le definisce l'Istat, o se preferite sono i single. Nel nostro paese crescono sempre di più, oggi rappresentano, censimento alla mano, il 20% della popolazione. Un dato alimentato soprattutto dai divorzi, in 10 anni sono quasi raddoppiate, ma anche se i componenti sono diminuiti, negli ultimi 40 anni il numero di nuclei familiari è aumentato del 54%. Dopo gli attivisti di Greenpeace e Khodorkovsky, rilasciate anche 2 delle Pussy Riot per l'amnistia voluta da Putin a poche settimane dai giochi olimpici invernali di Sochi. Maria Alkyonkina e Nadia Tolokhinova, che scontavano 2 anni di prigione, una volta libera hanno continuato a attaccare il governo di Mosca. Quella del Cremlino è solo propaganda. Se avessimo potuto avremmo rifiutato la misericordia. Russia senza Putin, tutto il paese è come una prigione. E riprendiamo all'800240024 dopo l'intervento delirante di quell'ascoltatore che citava una cosa che non sapeva nemmeno lui, come si fa? Sentiamo Riccardo che ci chiama da Bologna, buonasera. Riccardo? Sì, buonasera. Buonasera. Credo che l'ascoltatore che ha telefonato prima si riferisse a Vedrò. No, fondazione... almeno lei la sa, almeno lei lo sa quello. Sì, sì, la fondazione Zanidetta. Capirai. Poi, cioè, non di Zanidetta. Che denuncia, sì. Di Enrico Letta. Sì. Dopodiché, per quello che riguarda la città metropolitana e l'abolizione delle province, mi ha anticipato ovviamente l'onorevole Castelli. Sì. E io volevo aggiungere che ci sarebbe anche un grossissimo problema al quale probabilmente Renzi non ha pensato, che è la gestione del trasporto pubblico di linea. Ad esempio, se facciamo una città metropolitana con Imola, che è a 40 km da qua, chi gestisce il trasporto urbano? Lo ingloba Tipper, che è l'azienda di Bologna, rimane diviso? No, se lo chiede a noi credo che non siamo in grado di darle una risposta. Sì. Ma non me la deve dare lei, la deve dare Renzi, la deve dare Del Rio, che ha fatto questa cosa. Tutti i consigli comunali di tutti i comuni che sono stati eletti e che vengono inglobati potranno continuare a decidere o decide il sindaco di Bologna, ad esempio? Avranno libertà? Questa è un'altra cosa. Cioè, nel momento che non ci sarà la provincia, dice? Nel momento in cui non ci sarà la provincia, verranno inglobati tutti i comuni intorno in una città metropolitana. Sì, tutti sì. I comuni intorno, che hanno tutti un sindaco e un consiglio comunale, che fine fanno? Cosa? I comuni rimangono lì. Ma il sindaco di quel comune che è stato inglobato può continuare a decidere per... Ma non viene inglobato, guardi. Sei stato inglobato nel senso che non c'è più... No, non viene inglobato, lei si sbaglia. I comuni, i sindaci dei comuni dell'area metropolitana parteciperanno all'area metropolitana, che non avrà una cosa come elettiva. Come già adesso. Quindi non, sì, ma non vengono inglobati. Per le province non è così, e questo è il cambiamento. Ma non ho capito... Esiste una cosa che si chiama area metropolitana o area sovracomunale. Sì, l'area metropolitana, cioè, infatti rimane, e non è... Quindi quello non il nodo della riforma. Cioè, no, il nodo della riforma è l'abolizione delle province. È questo, nel formato in cui abbiamo letto. Poi ognuno si fa l'idea che... Se vengono fatti degli altri enti uguali con un altro nome... È come cambiare il nome dell'IMU in TARE, STAC, TISI, TIRI. Sì, va bene. No, siamo d'accordo. Pure. Sì. Poi dopo c'è Renzi, si dovrebbe preoccupare dell'assessore del suo partito che sta in consiglio regionale in Liguria. E Letta. Di quale assessore? Scusi, di quale assessore? Di quello del consiglio regionale ligure, quello che ha parlato prima. Di quella roba delirante che non è del suo partito, è di Selle, ma va bene, di centrosinistra. Benissimo, è uguale, sempre di quella parte lì. Dopodiché il buon Letta Enrico ha avuto ragione nel dire che sono andati avanti 40 anni. Abbiamo cambiato un 70enne più o meno, che era Mario Monti, di Bilderberg, del patto trilaterale. No, di Bilderberg non ne posso più. Grazie Riccardo, buona serata. Ride anche lui. Scusi Riccardo, sta ridendo. Riccardo? su Bilderberg è stato messo fulminato, anche lui, è stato fulminato, cioè, dall'altro. Questa storia non se ne può più. Elisabetta da Ferrara, buonasera. Pronto? Prego. Pronto, buonasera. Buonasera. Sì. Senta, buonasera, io volevo parlare della questione del igienico-sanitario dei nostri centri, quelli di Lampedusa e così. Arrivati a questo punto, però da quello che noi vediamo alla televisione quando riprendono, ma neanche questi ospiti non alzano mai un dito per raccogliere niente da terra, Cioè, se questo non... Cioè lei auspica un coinvolgimento degli immigrati nella pulizia dei centri? Anche loro. Sa come si dice in Italia, almeno si dice, una mano lava il viso e tutte una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Potrebbero proprio riparare il tetto. È un po' difficile da cui piove, dirlo però adesso delle persone... No, non parlo dove piove, dove non piove, ma le cose per terra, se loro anche si abituassero a raccogliere, mettere nei sacchi... Scusi, ma lei che ne sa, ma lei che ne sa di come si comportano questi qua dentro? No, che nessuno raccoglie niente. Ma dove si vede? Ma scusi, ma dove sta parlando visto? Del video in cui vengono denudate delle persone e lavate e viene fatta come in un lager, no? Per capire, no, perché lì è difficile, no, diciamo. No, io non parlavo di quel video. Ah, di cosa? E di cosa parlava? Io parlavo delle immondizie per terra e tutte queste cose che hanno, si vedono i piatti di plastica. Dove le ha viste le immondizie, così. Signora? Dove? Ma signora, non c'è la mensa in questi, in questi centri d'accoglienza. Lo stesso, se tu non hai la mensa, vai a fare un picnic, te li metti dentro. Ma scusi, un ma lei, nero, ma dove le ha viste? Mi scusi, signora. Non è esattamente un picnic. Elisabetta, signora, Elisabetta. Non è un picnic, lo so. Elisabetta. Però se vengono abituati a raccogliere no, meno Elisabetta, le cose per terra, Elisabetta, mi ascolti? Mi ascolti un attimo, Elisabetta? Mi sente? Sì, sì, la sento. Ecco, mi dica. Lei mi deve dire dove ha visto i piatti in terra, le immondizie, dov'era? Cioè, c'era lei o l'ha vista in un giornale, in televisione? Cosa no, ha visto? No, l'ho vista non questa sera, in questi giorni. A volte si vedono questi piatti per terra, dove? Questa roba nei vari centri, così. Poi li buttano perché questo non gli piace, già chiusi. A volte si vedono buttati per terra quando vedi le trasmissioni. Perciò se si impara, se si insegna a queste persone a raccogliere almeno quello che loro, sì, i loro scarti, almeno rimane un po' più pulito, questo volevo dire. Va bene, Elisabetta, mi faccia un favore personale, se trova questo video ce lo manda, che lo postiamo su Facebook, così lo condividiamo. Grazie, buona serata. Adesso vi vogliamo raccontare di una storia, un gemellaggio tra due comuni per scambiarsi cosa? Oh. Per scambiarsi una mano, per darsi una mano, si tendono una mano. Una buona storia finalmente. Novara, diciamo, tende la mano a Trapani. Pensa che quando abbiamo chiamato a Novara per dirgli questa cosa qua... Hanno detto che rispondono quelli di Trapani. No, hanno detto, ah bello, ma questa storia è bellissima, non lo sapevamo neanche noi. Allora, adesso intanto chiediamo al sindaco di Novara, Andrea Ballare, buonasera. Buonasera. Deve cambiare buonasera qualcuno all'ufficio stampa, non so chi abbiamo chiamato, perché gli abbiamo letto questa notizia e non lo sapeva, non lo sapevano. È in ferie oggi, l'ha detto stampa, quindi ecco, è legittimato. No, ma non voglio mettere nei guai il dipendente che ha risposto al telefono, no. Ci mancherebbe altro, non era l'addetto, diciamo, a conoscere queste cose qua. Un gemellaggio tra Novara e Trapani per, insomma, in sostanza voi che cosa è che cedete a Trapani gratuitamente per far funzionare meglio anche il loro comune? Ma gli chiediamo in buona sostanza un software, sì, che abbiamo realizzato insieme ad altri comuni, tra l'altro il comune di Milano, di Monza, e gli gestiamo la capacità di gestire questo software per raggiungere gli obiettivi che sono in realtà quello di mettere insieme quello che si dice sempre, ma che poi è sempre difficile fare, cioè sì, mettere in rete tutte le varie banche dati che il nostro paese dispone per poter... Ma che banche dati sono, così giusto ma per capire? Partiamo da quelle comunali, che sono ad esempio l'anagrafe, piuttosto, sì, che la banca dati del tributi, ma poi ci aggiungiamo le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, quindi il catasto, i contratti. Cioè voi avete un sistema efficiente, studiato insieme anche ad altri comuni, tra cui Milano, ci diceva, di gestione di tutti questi dati, e lo date, lo prestate gratuitamente a Trapani e gli fate anche, come dire, l'aggiornamento, la manutenzione, sempre gratuitamente? Sì, ma questo fa parte di un progetto, di un progetto nazionale che è fatto insieme al Ministero per lo Sviluppo Economico, sì, era finanziato anche dal Fondo Sociale Europeo. Benissimo. E noi gli forniamo il software e gli spieghiamo come funziona. Questo è un caso di spending review, come dire, implicito, no? Senza neanche fare troppe chiacchiere, però dovrebbe essere sempre così. Beh, la collaborazione fra comuni è abbastanza... è consueta, io faccio parte anche dell'ANCI e tramite l'ANCI i vari comuni riescono a parlarsi, a scambiarsi le buone pratiche. Insomma, lo facciamo su vari fronti. No, è che un po' sembra una buonissima notizia, e d'altro canto un po' sembrerebbe impossibile il contrario, cioè sembrerebbe strano il contrario, cioè che ogni comune vada in un posto e si faccia e paghi un software, il proprio software, che l'hanno bisogno tutti i comuni. Invece spesso e volentieri è così. Infatti dico, è un po' incredibile che sia così. Poi questa è una buonissima notizia, pensa, e ne siamo contenti, ma dovrebbe essere messo a sistema. Quanto si potrebbe risparmiare facendo così ovunque? Ma perché proprio Trapani? Questa è un'incuriosità. Ma Trapani perché il progetto prevedeva di gemellarsi con comuni della zona obiettivo 2, che sono Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia, e quindi con le zone del meridione d'Italia, e i nostri tecnici comunali avevano delle conoscenze presso il comune di Trapani, e quindi si è creato questo link che ha portato a questo progetto. Un'altra cosa mi incuriosisce: voi siete particolarmente virtuosi e cedete voi agli altri, o avete voi stessi qualcosa che ricevete in questo nodo di federalismo solidale tra comuni? Ma adesso nel caso no, anche noi riceviamo, ecco. Noi ad esempio abbiamo degli accordi con il Teatro Regio di Torino, per sì. cui le produzioni che vengono fatte al Teatro Regio vengono cedute a volte al Teatro Coccia di Novara, No, gli scambi tra comuni sono abbastanza normali, dovrebbero essere molto di più, come dicevate voi. Purtroppo le varie regioni spesso e volentieri viaggiano un po' ognuno per la propria strada. Invece, ecco, è questo magari, c'è una regia in tutto essere, questo? Esatto, la regia deve fare l'ANCI, infatti io mi sto occupando adesso anche delle attività produttive dell'ANCI nazionale, abbiamo proprio questo obiettivo, quello di creare delle buone pratiche, dei facsimili di buone pratiche da poter proporre, da fare in modo che i vari comuni le utilizzino, abbiano dei facsimili in modo che ci si possa muovere anche tutti allo stesso modo e non tutti si faccia la fatica. Se già un comune ha fatto la fatica, certo, di studiare alcune vicende, alcune procedure, leggi, modalità operative, le cede agli altri e che diventano anche molto più efficienti, anche in modo più veloce d'altra parte. Ma come si fa a mettere a sistema questa cosa e non, diciamo, a demandarla semplicemente alla buona volontà degli amministratori? Nel senso che se vi incontrate bene, se no questa cosa non avviene, giusto? No, però l'ANCI, che è l'associazione di tutti i comuni, ha la possibilità di così convocare i comuni. Certo, non li possiamo obbligare, questo è sicuro. Lì occorrono degli amministratori che comprendano che l'unione fa la forza e che dagli altri comuni si può trarre molto Uno potrebbe dire però... noi non ve lo diamo, noi di Novara non vi diamo il nostro software, a voi di Trapani. Potrebbe essere possibile, sì. Sì, potrebbe essere possibile. Beh, essendo su base volontaria. Ma cosa potrebbe fare di più invece il governo, il Ministero per lo Sviluppo, o non ricordo esattamente quale ministero lei ha citato? Ministero dello Sviluppo, per favorire questa cosa qua. Cioè, faccia una richiesta esplicita, se qualcuno ci sta ascoltando in questo momento, siamo a poche ore dal Natale, ci facciamo un regalo di Natale. Ma il Ministero dello Sviluppo potrebbe certamente stare ad ascoltare molto di più quelle che sono le proposte dei comuni, perché loro viaggiano nella stratosfera, mentre invece gli amministratori locali e i comuni viaggiano nel mondo reale tutti i giorni. E se il Ministero ascoltasse di più le proposte molto concrete e fattive che arrivano dai comuni e poi mettesse due soldi per consentirci di realizzarle, questo qua ad esempio è un progetto che è costato 80.000 euro, non 800 milioni di euro, ma questi 80.000 euro vengono recuperati in modo abbondantemente, con gli interessi abbondantemente, i risultati sono immediati, e quindi occorre veramente da parte del governo un ascolto molto più ficcante da parte dei comuni, perché i comuni hanno la capacità di vedere la concretezza dei problemi e di affrontarli in modo concreto. Grazie al sindaco di Novara, Andrea Ballarè, buona serata. Grazie a voi, buon lavoro. E complimenti per questo piccolo ma significativo progetto di scambio, così, di conoscenze, di informazioni. Anche perché diceva 80.000 euro, ma se ci penso 80.000 euro, ogni comune li spende, costerebbe un euro a comune se si mettono tutti insieme. Sì. Dicono, facciamo il software, quello che serve a tutti. Se quanto costa 80.000, perfetto, un euro a testa, fatto, finito. Bello sarebbe. Antonello dalla provincia di Novara, per l'appunto, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera, ciao. Eccoci. Una, mi sento? Sì, la sentiamo. Mi sente? Benissimo. No, una riflessione sulla, sulla questione della svolta generazionale, che il 2013 rimarrà la storia come l'anno della ma Andreotta Veltotagni era già sottosegretario di De Gasperi, era già nell'assemblea costituente. Beh, erano, cioè, altri tempi, però erano altri tempi. Vorrei sapere cosa ne pensate voi. No, no, c'è poco da pensare, ha ragione, è vero, c'è stata un'epoca in cui, ma era tutta una generazione che nasceva dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, erano tutti giovani, hanno fatto la Costituente, il problema è poi che sono rimasti lì. È questo il problema. Sono rimasti lì fino adesso. Si è seduto a 28 e si è alzato l'altro ieri. E cioè, quindi il problema c'è, per risponderle, anche se non è una svolta, nel senso che non è la prima volta che succede che un politico giovane aspira a diventare ministro. Letta è stato ministro, era giovanissimo. Però è molto divertente vedere fra vent'anni, che uno dice, fra vent'anni uno va da Renzi e dice, beh, adesso però tutti sposti, mettiamo un altro quarantenne, perché non è che resti tu sempre. Vediamo un po' di parlare con Nino, che ci chiama dalla provincia di Lucca. Nino, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io volevo dire, riguardo al discorso della ludopatia. Sì. Sul discorso delle slot machine, sì. Io lavoro sui mercati e questa cosa qui, parlando con le persone, sono rimaste veramente stupefatte da questa proposta di legge vergognosa. Ma sui mercati in che senso, scusi? Lei lavora sui mercati? No, io lavoro sui mercati. Cioè? Sì, perciò ho mercati per strada, Nino. Di parlare con le persone che... Nino, scusi, lavora sui mercati, cosa vuol dire? Che lavora al mercato, quello per strada, con i banchi della frutta e verdura? Sì, bravo. Ah, perfetto, bravo, scusi, sì, non l'avevo capito. Sì. Lei stesso ha... Pensavo sui mercati finanziari, Radio 24. In questi momenti, di questo appunto, anche ora in questo caso di questa legge sulla ludopatia, sulle slot machine, questa proposta di legge che... cercava di punire i comuni che invece cercavano di aiutare i cittadini. E questa mi sembra, questa è una considerazione che faccio io, mi sembra proprio un modo di fare del nostro governo, perché bisognerebbe dire anche il discorso delle sigarette. Cioè le persone si stanno impegnando magari con la sigaretta elettronica a provare di smettere di fumare, cercare di trovare un'uscita, visto che ci sono qua... 40.000 morti l'anno, insomma una strage, sì. E il governo cosa fa? Come ha fatto con la proposta sulle slot? Ha fatto una legge che ora dall'inizio dell'anno le fialette che costano 4 euro ora, sì, andranno a 25 euro, in modo che le persone siano dissuase da continuare magari a provare a smettere di fumare. Vabbè, con me sfonda una porta aperta su questa cosa, perché io fumo la sigaretta elettronica, quindi grazie Nino. Grazie Nino, ma si è mangiato il telefono, tra l'altro, perché si sentiva. Grazie Nino. Grazie, buona serata, grazie. Ha ragione, il tema degli incentivi ci sta tutto, cioè ogni volta che c'è un intervento sulla leva fiscale, sulle tasse, lo Stato, secondo me, dovrebbe usarlo per incentivare comportamenti migliori, non i peggiori, perché poi su questa questione delle slot è proprio questo il punto. Cioè lì si andava a disincentivare un comportamento tendenzialmente positivo. Poi uno dirà, ma non bisogna fare una crociata contro il vizio, contro il gioco è libero, fate quello che vi pare. Però c'è un problemino che si chiama ludopatia, ci vorrà un'altra puntata per parlarne, siamo in chiusura. E quindi salutiamo. Ci sentiamo domani dalle 18 alle 20:30. Ringraziamo, sì, chi ringraziamo? Cristian Goldoni, Riccardo Buccero, in Andrea redazione, Piana, Valeria Bernardi in regia, Andrea Piana, ai testi, autore di Si può fare. Esatto. Basta, stiamo usando questi secondi perché abbiamo ancora 20 secondi prima di chiudere. Però siamo diventati bravissimi, perché quest'estate invece eravamo sempre lunghi. Quindi forse adesso riusciamo anche ad essere in ritardo, secondo te? Direi che non è il caso. Va bene. A domani. Allora, a domani. Soprattutto a chi ci ascolta in podcast. Ciao. Ciao.